le somme del dibattito che abbiamo avuto ieri. Posso assicurare però i presenti che, aiutato anche da una notte non felicissima, insomma, in stato di riposo, ho avuto occasione di ripensare alle cose che sono state dette, ad alcune in modo particolare. Mi dispiace che non ci sia Bracco, perché è stato lui uno dei protagonisti del mio ripensamento, insomma, su qualche problema, in modo particolare quello di una possibilità che forse c'è di raggruppare intorno a classi di valore, di valore di reddito, diciamo così, o di valore capitale, di riclassificare le superfici che forse c'è, insomma, con questo materiale di cui disponiamo. Ieri nel dibattito, siccome la ricerca aveva escluso questo tipo di raggruppamento, di classificazione, io l'avevo escluso alla luce così dei lavori fatti, però forse c'è una possibilità anche tecnica di realizzare questa cosa. Quindi i presenti, leggendo poi il contributo, non si meraviglino se, facendo tesoro di questo è uno degli obiettivi tra l'altro della discussione, e qualche cosa sarà in limite possibile modificato. E così non penso che debba essere considerata chiusa la discussione anche sull'impostazione data, perché i risultati di cui adesso riferiamo subito permetteranno di avere forse ancora più chiaro, no, alcune questioni di metodo, alcuni criteri che sono stati scelti per organizzare la ricerca. Come abbiamo stabilito ieri, adesso procederemo in questo modo. Io, in tempi più brevi possibili, insomma, cerco di riassumere, di sintetizzare i risultati della ricerca, che, come ho detto, riguarda una parte consistente dello Stato di Milano, tutta la parte di pianura, di collina e di collina, per un totale di 8 milioni di perti che sugli 11 milioni e qualche cosa costituivano la superficie dello Stato. Poi Bianchi completerà questo tipo di ricostruzione, che è stata condotta praticamente con gli stessi criteri, per gli altri 2 milioni e mezzo di perti che formano la parte di montagna. Seguirà poi la discussione e noi ci auguriamo anche che Cova possa trovare un piccolo, per modo di dire, insomma, spazio alla fine per riferire anche della sua ricerca, sempre naturalmente che lo consente la discussione, no? L'esaurimento dei lavori su questa prima parte, e sempre chi presente, come dire, manifesti un interesse, insomma, per questa appendice non secondaria, insomma, del lavoro che abbiamo esposto. Quindi comincio io, appunto, facendo un quadro molto sintetico di questi risultati, che sono ad una fase, come dire, definitiva per quel che riguarda i tabulati di cui disponiamo e su cui abbiamo condotto le nostre riflessioni, almeno ho condotto io, perché questa parte è di diretta mia responsabilità, lasciando però ancora degli spazi per ulteriori approfondimenti, perché sui tabulati, voglio dire, sulle statistiche, poi è possibile ampliare ulteriormente il lavoro di riflessione e di considerazione. Faccio una piccola premessa che vale in parte anche per Bianchi, così risparmiamo un po' di tempo. Noi abbiamo posto al calcolatore alcuni quesiti, io ve li richiamo perché e su questi quesiti che è stato raccolto poi il materiale, è stato organizzato il materiale, e su questi quesiti, e per questi quesiti che disponiamo di tutti i tabulati. Io vi faccio grazia, come dire, nel senso di non entrare nell'analisi dettagliata, insomma, no? Cioè non riferirò tutte queste risposte, disponibile poi nella fase di discussione di approfondire questo o quell'altro aspetto che potesse interessare. Sostanzialmente i quesiti riguardano sei grosse questioni, sono di sei ordini. Il primo riguarda la distribuzione della superficie per tipo di coltura agraria. I dati sono assoluti e in percentuali, sono relativi alle superfici e al valore capitale, sono relativi, disaggregati, alla piena proprietà e alla nuda proprietà. Quindi, non ripeterò più questo vale per tutti gli altri 5 punti, sei con questo che leggo. Quindi noi abbiamo sempre dati in assoluto e in percentuale, relativi alla superficie e al valore capitale, relativi alla piena proprietà e alla nuda proprietà, disaggregati. Ecco, intorno a questo primo tema, la distribuzione della superficie per tipo di coltura agraria, noi disponiamo di tabulati su la superficie per ogni tipo di coltura nel complesso, no? La superficie per ogni tipo di coltura e per zona agraria, la superficie per grado di produttività, la superficie per grado di produttività e per zona agraria, i valori medi di una pertica di terreno per tipo di coltura e per zona agraria. Valori catastali. Sempre, io parlo di valori, certo. Il numero dei gelsi nel complesso, il numero dei gelsi per zone agrarie, il numero dei gelsi per tipo di cultura a cui sono associate. Questo esaurisce il primo gruppo di argomenti, di domande, la distribuzione della superficie per tipo di cultura. Secondo, la distribuzione della superficie per classi di ampiezza, sempre dati assoluti percentuali relativi alla superficie e ai valori capitali, la superficie per classi di ampiezza in complesso, la superficie per classi di ampiezza e per zone agrarie, la superficie per classi di ampiezza per zone agrarie e per numero di gelsi di cui è dotata. Quindi abbiamo incrociato i dati che avevamo rispetto al numero dei gelsi e l'abbiamo considerato anche all'interno delle classi di ampiezza. Terzo gruppo di domande, la consistenza e la struttura del ceto proprietario. Anche qui dati assoluti in percentuali e distinzione tra la piena proprietà e la nuda proprietà. Il numero complessivo degli intestatari delle partite, il numero degli intestatari per gruppo sociale, il numero degli intestatari per zone agrarie, il numero degli intestatari per gruppo sociale e per zone agrarie. Quarto gruppo di domande, la distribuzione della superficie per gruppo sociale di appartenenza del titolare. Del titolare o dell'intestatario, meglio, della partita. Scusate, qualche volta, ma è sinonimo, quindi titolare o intestatario vuol dire la stessa cosa. La distribuzione della superficie per gruppo sociale di appartenenza dell'intestatario. Abbiamo la superficie nel complesso, la superficie posseduta da ogni gruppo sociale nel complesso, la superficie posseduta da ogni gruppo sociale per zone agrarie, l'ampiezza media della superficie posseduta da ogni gruppo sociale nel complesso. L'ampiezza media della superficie posseduta da ogni gruppo sociale nel complesso. L'ampiezza media. Sì, l'ampiezza media. Sì, no, forse non sono stato chiaro nella dizione. Quinto, la distribuzione della superficie per gruppo sociale secondo il tipo di cultura. Qui abbiamo la superficie per gruppo sociale per tipo di cultura in complesso, la superficie per gruppo sociale per tipo di cultura e per zone agrarie, la superficie per gruppo sociale per tipo di cultura, per zone agrarie e per gradi di produttività, e poi il numero dei gelsi per gruppo sociale e per zona agraria. Questo è importante perché accresce e diminuisce il valore della proprietà. E infine la distribuzione della superficie per gruppo sociale secondo le classi di ampiezza. Qui ci sono due sole risposte, la superficie per gruppo sociale per classi di ampiezza in complesso, la superficie per gruppo sociale per classi di ampiezza e per zone agrarie, quindi incrociando ancora in modo di avere questa disaggregazione. Ecco, io ripeto subito, ho il grande scrupolo, come dire, di non riempire la testa al prossimo di un gran numero di cifre, quindi mi limito ad alcune cose essenziali. Adesso passo a riferire i risultati per ciascun gruppo di questi. Allora, superficie complessiva, ho già detto, i dati sono relativi a 8.1469 pertiche, e, rispetto alla superficie per le stesse pievi, le stesse comunità, calcolate nel sommarissimo, risulta uno scarto in meno del 3,49%, cioè tutte le nostre somme, raffrontate a tutte le somme che erano state fatte nel 730, danno questa differenza. Questa differenza però diminuisce se si tiene presente che noi non abbiamo potuto utilizzare i dati relativi a due comunità, perché di queste due comunità non esistono più, non abbiamo trovato i registri, no? Non esistono i registri. Questo attraverso più indagini, manca dentro nel faldone il registro relativo a queste due comunità. In questo momento non te lo so dire, l'abbiamo scritto da qualche parte, però posso. E quindi lo scarto, insomma, diminuirebbe ulteriormente. Si aggiunga poi una cosa, e questo non posso dire se lo scarto aumenterebbe o diminuirebbe, è che noi abbiamo fatto fare al calcolatore tutte le moltipliche relative ai valori capitale complessivo. Quindi abbiamo fatto moltiplicare, avendo constatato che chi aveva steso le cose aveva commesso notevoli errori nel moltiplicare la superficie per il valore unitario per avere il valore complessivo, abbiamo fatto fare questo calcolo. Quindi se si presume che il calcolatore sia più preciso di coloro che a mano, insomma, hanno eseguito questi calcoli, è più probabile che sia la nostra superficie quella effettiva che non quella, no? O in più o in meno. Questa però è una cosa che non suggerirebbe di vedere tutti gli errori per sapere, insomma, cos'è in più, sei in più o in meno. Comunque a me sembra che sia uno scatto rilevante, insomma, sull'universo considerato appunto di 8 milioni di perdite. Detto questo, ecco, la superficie dunque, dicevo, complessiva di 8 milioni di pertiche, come si distribuisce, ecco, tra piena e nuda proprietà? Il rapporto, dunque, la nuda proprietà rappresenta per la mia parte, perché poi ci sono i dati che sono diversi invece per bianchi, sempre per la mia parte è del 4,44%. Quindi prevale. La tua parte quanti milioni, scusa, di lavoro? 8 milioni di perdite. Solo la tua parte? Solo la mia parte. La tua quanti sono? 2 milioni e 600 mila perdite. 2 milioni e 600 mila. In modo che arriva. Cosa intende per piena e nuda proprietà? Intendo la proprietà che è utilizzata, che ha un godimento pieno, e la proprietà invece che è data a livello. Ah, ecco. Sì, l'espressione. Reale, no, sì. Sì, piena e nuda proprietà. Ora, andando a vedere la distribuzione per grandi, per culture, sul totale, io dico subito che attribuisco una scarsa importanza, anche se le zone sono abbastanza omogenee, però in pratica val di più il discorso che faremo sulle zone agrarie, il fatto di distribuzione delle culture, che non di tutto, diciamo. Però se può interessare, insomma, in pratica sul totale, sugli 8 milioni di pettiche, le culture prevalenti sono gli aratori, no? In modo particolare l'aratorio vitato e l'aratorio semplice o aratorio asciutto, l'uno con il 24% e l'altro con il 20%. E sommando i vari tipi di aratori si arriva ad un 50%, aratori asciutti, semplici e vitati. Ecco, guardando poi alle culture, come dire, peculiari della zona, di questa zona, in particolare dell'irrigo, si nota che la risaia, le due tipi di risaia, la stabile e la risaia vicenda, si portano via il 4,30%. Questa è la risaia con destinazione specifica. Se si va a vedere poi gli adacquatori, in modo particolare i prati adacquatori, i prati adacquatori e i prati adacquatori a vicenda, si è sul 9%. Questo vuol dire, e poi il prato a vicenda, il prato ad acquatore a vicenda è 0,08, quindi siamo sul 9%, forse mettendo insieme anche qualche tipo di aratorio ad acquatorio si arriva sul 10%. Senza la risaia. Senza la risaia. Aggiungendo la risaia siamo sul 15-16%. Naturalmente culture come il bosco sono relativamente modeste, perché bosco più castagneto danno un 9,45%, questo non stupisce perché è la zona di massimo sfruttamento in pianura. Gli orti non toccano l'1% e il pascolo specializzato, il pascolo semplice è intorno all'1,5%, 1,66%. Questo è il quadro, se poi qualcuno ha bisogno di il ronco, sono percentuali modestissime, perché il ronco compare invece nella zona di montagna, è l'1,17, insomma. Quindi, non vorrei spiegare che cos'è il ronco, perché forse il ronco, a Siena il ronco è una sistemazione del terreno a muretto, a sbalzo, insomma, no? In modo da utilizzare in piano una parte di superficie era ricostruita, perché il ronco è ricostruzione artificiale. Costruzione artificiale del paesaggio. Veniva usata per culture specializzate? Veniva usata per cultura promiscua, grano turco e vite. Terrazzato e terrazzato, per modo per dire, insomma. Era molto diffuso nelle zone di media montagna, alta collina e media montagna. Ma nel Chianti? Io a questo punto sì, penso di sì, perché è una tecnica di messa in piano della superficie, il terrazzamento. Ecco, questi sono i dati, ripeto, che io ho in complesso, cioè quando dico in complesso vuol dire piena e nuda, e ho anche disaggregati, come ho detto, per piena soltanto e nuda. Però le percentuali sostanzialmente non cambiano nei due tipi di posizione giuridica. Ecco, più interessante invece è il discorso in ordine a questa ripartizione delle culture per zone agrarie. Le zone agrarie, come ricordano, sono 9, quelle che interessano soprattutto, cioè sono 10, ma la prima, la montagna, copre una superficie modestissima, perché è entrata nel computo in quanto, avendo usato rigidamente le altimetrie, è rimasto dentro un pezzo del Comasco, che in pratica poi era città di Zesio superiore, Zesio inferiore, la pieve di Zesio, una piccola parte, alcune comunità che per altimetria stavano dentro nei miei calcoli, non in quelli di Bianchi. Io probabilmente però nella stesura finale questa zona la lascio fuori, perché crea una complicazione, cioè da luogo di alterazione che non ha senso, trattandosi di un territorio limitatissimo. Potrei dire che è stato un errore in progetti, cioè potevamo essere meno rigidi e lasciarla, cioè attribuirla a chi faceva la montagna, perché in effetti anche proprio così come paesaggio è dentro in questo ambiente. Ecco, su queste tavole le riflessioni sono abbastanza interessanti, anche se in parte scontate, insomma, no? Perché proprio per dire l'essenziale, io potrei riferire quali sono le culture predominanti a seconda delle zone. Così non stupirà, per esempio, che nella zona di alta collina predomini, io parlo di superfici, predomini in superficie il bosco, la costa arborata, cioè l'utilizzo di quelli a cui fa seguito il castagneto, e poi fanno seguito immediatamente, ripeto, un 24, un 15% gli aratori. Quindi, scusa, l'alta collina che neanche altezza arriva? L'alta collina, e adesso devo andare a beccare tutto. Questo è abbastanza importante. Semmai, voglio essere preciso, perché purtroppo c'è abbastanza in fretta. No, se lei arriva prima me lo dica. Così almeno, eccola qui. L'alta collina, qua, per esempio. Cos'è 700 circa? Eccola qui. Dunque, l'alta collina prealpina tra i 205, sopra i 205 metri più male. Teniamo la piccola tabella che può servire. Sì, era un dettaglio che forse dato ieri, vabbè, comunque pazienza. Quindi alta collina prevale il bosco 24%, l'aratorio avvitato 15%, il castagneto 9%, le altre culture, ma questo ripeto è... So, per esempio, tutti i tipi di prato sono al di sotto dello zero, insomma, molto al di sotto dell'unità. Quindi siamo veramente in presenza di poche culture essenziali, insomma, no? Gli aratori, il bosco, no? in questa proporzione. Se passo all'alta e media collina, quindi non più due, su alta e media collina, cioè a seconda delle zone, 200, perché attenzione, l'alta collina va dalle 205 ai 1300. Ah, ecco. Sì, no, ho sbagliato io, dai 205 ai 1300. Mentre invece la media collina va dai 200, 240 ai 1100, diciamo. Ecco. Quindi alta e media collina, qui le culture predominanti sono ancora il bosco, ma cioè no, il bosco diminuisce di importanza rispetto all'aratorio. Sia l'aratorio semplice che sul 30% e l'aratorio avvitato sul 12%, quindi gli aratori cominciano già a portarsi via un 30% in questa zona più bassa, e invece il bosco diminuisce di importanza. Questa tendenza è accentuatissima nella bassa collina. La bassa collina è tra i 100, 180 insomma e i 600 metri insomma, compresi in questa fascia. Qui la predominanza è dell'aratorio con il 52%, il bosco scende ulteriormente perché è ridotto al 10%, e aumentano anche le altre culture, in modo particolare una importante, cioè la brughiera, perché la brughiera aveva quel noto uso, no, di supporto per certi tipi di utilizzo, insomma, no? Brughiera, il castagneto è bassissimo, il pascolo, ecco, comincia a comparire il pascolo sul 5%, e il ronco, vabbè, però il ronco 7% non è ora. Ecco, veniamo adesso alla zona di pianura in senso stretto, e qui cambia il paesaggio, cambia completamente, come è ovvio, intuitivo, perché alta pianura asciutta, io qui poi non farei una distinzione, lascerei la distinzione solo tra l'asciutta e l'irrigo, insomma, perché è un fatto di altimetrie siamo. Ecco, nell'alta pianura asciutta abbiamo una predominanza dell'aratorio vitato 38% più l'aratorio semplice 29%, quindi siamo sul 68%, insomma, no? 68% degli aratori. Il bosco è sul 10%, la brighiera sull'8%, e compare il prato d'acquatorio 3,87%. Le altre culture praticamente non esistono perché sono percentuali bassissime. Quindi c'è una notevole concentrazione, insomma, intorno ad alcune culture importanti. Ecco, questo invece si modifica per le altre aree, cioè appare una più equilibrata divisione, ripartizione delle culture che non si concentrano più su alcuni tipi fondamentali. No? Il caso classico è la bassa pianura risicola, perché qui c'è un aratorio al 16%, l'adacquatorio al 3%, l'aratorio adacquatorio quasi al 9%, l'aratorio a vicenda il 2,42%, l'aratorio a vitato il 20%, il bosco è ridotto al 6%, l'orto è consistente perché è più dell'1%, il prato, e poi i prati, il prato semplice 1,20%, il prato d'acquatorio 9,55%, cioè caratteristico evidentemente della zona, il prato d'acquatorio vicenda 7%, quindi siamo su un 15-16% solo dei prati ad acquatori, il prato a vicenda 2% quasi, il prato marcitorio 1,47%, no? La marcita, la risara il 12%, e questa è la zona in cui la risara, se non ricordo male, ha la percentuale più elevata, perché per appunto è la sua caratteristica. Ecco, passando poi alle altre zone sempre di pianura irrigua, abbiamo l'avanzare proprio notevolissimo dell'aratorio ad acquatorio e del prato ad acquatorio, sono le due culture che predominano in questa parte, no? L'aratorio d'acquatorio da solo è il 33%, il prato d'acquatorio solo è il 14%. Ancora, questa è l'altra conferma dell'altra zona, non vale la pena. Ecco, nella pianura asciutta, e chiuderei con questo, nella pianura asciutta pavese rodigiana, per intendersi, non so se riescono a vedere, la parte che è segnata in verde dopo la zona gialla, quella lì, e ha una struttura di questo tipo: aratorio 21%, aratorio d'acquatorio 18%, aratorio vitato 26%. Altre culture rilevanti: il prato d'acquatorio a vicenda, il bosco 6%, la risara 4%, però è più basso, notevolmente più basso dell'altra zona. Ultimo, la bassa pianura asciutta cremonese. Aratorio quasi 30%, aratorio vitato 52%, quindi questa era la zona della viticoltura promiscua. E pascolo e bosco 6, sì, pascolo boscato, no, pardon, prato 6, comincia ad andare insieme, il prato è il 6%, prato d'acquatorio quasi il 3%, le altre culture sono irrilevanti. Però è chiaro che con percentuali di questo tipo di aratorio abitato si porta via da solo più di metà della superficie in questa zona, ed è una conta. Io poi da questi dati ho ricavato, ma faccio che se mai qui dopo nella discussione c'è qualcuno, cioè ho ricalcolato tutte queste cose distribuendole per zone, sempre per zone, ma per cercare di cogliere il peso in percentuale rispetto al complesso delle culture nella zona, che tre grandi destinazioni hanno. Le tre grandi destinazioni sono in queste zone gli aratori, i vari tipi, le foragere, no, le produzioni di foraggio, e poi gli utilizzi diversi, voglio dire, che vanno dal bosco all'importo produttivo, all'orto, alla risara, al ronco, alla vigna, insomma, no? Che danno le percentuali più basse, perché gli impieghi maggiori e quindi i pesi specifici maggiori sono gli aratori e le foragere. No? Comunque, se poi interessa, possiamo. Questa è la parte che verrà pubblicata, perché dà molto bene, come dire, per ogni tipo di cultura il peso che essa ha per zona, insomma, no? E la precedente no? Sì, no, è la stessa, solo che viene ricalcolata tenendo conto di questi gruppi. Le due sono pubblicate. Ecco, dicevo prima che è un problema di costi, no, è solo un non problema di. Non desiderate su questo. Eh? A questo punto non desiderate su questo. Non, sì, d'accordo, è un però c'è. No, c'è logica. Siamo. Sì. grazie, apprezzo il. No, ma qualcuno mi diceva giustamente che ci sono adesso questi sistemi che non sono molto belli dal punto di vista estetico. Che sono, ecco. Passiamo a un'altra questione, cioè alle culture per grado di produttività. Naturalmente con tutti i limiti, insomma, che abbiamo detto, per l'amico Rotelli che non era. Qui i gradi di produttività sono le squadre stabilite dai misuratori, non calcolate da noi, ma utilizzando evidentemente. Ecco, io ho le tabelle come dire, che danno la distribuzione della superficie per tipo di cultura e per grado di produttività, quindi su una colonna ho tutte le culture, sull'altra ho le squadre o gradi di produttività e quindi il peso poi che avevano, no? Le singole, come dire, i singoli gradi di produttività per cultura. Però il tutto che è disaggregato in questo modo, cioè nel complesso e poi per piena proprietà e per nuda proprietà, no? È riassunto in una tabella che, sulla quale adesso dico qualche cosa, dopo possiamo ritornarci sopra se interessasse. Ecco, qui la superficie si distribuisce in questo modo complessivamente, tenendo conto di tutta l'area, quindi per gli 8 milioni di pertiche, e la superficie totale, 8 milioni e 1466. Qui sembra che, cioè sembra, no, ti do scusa, qui il peso maggiore è della seconda squadra, quindi il secondo grado di produttività, i gradi sono decrescenti, no? Quindi con un 35%, seguito dalla prima squadra con il 28%, quindi il 35% della superficie, il 35% della superficie complessiva è classificabile come di seconda classe. Il 28%. Classe, che grado di produttività aveva? Ecco, è un po' difficile rispondere a questa domanda qui, perché è quel famoso artificio che permette, bisognerebbe vederlo nel suo valore. Come dire, nel suo valore imputato, perché il modo di esprimerlo era questo. Quindi da sempre le tabelle ai maestrini, alle minute di stima, alle minute di stima per vedere come a quale valutazione in termini di rendimento produttivo era questo stato stabilito. Questo non figura. No, questo qui, come al solito, qui figurano soltanto gli elementi, certo che figura solo la squadra. Cioè tu a registro hai la cultura in superficie, il tipo di cultura, la superficie e un secondo, un terzo, un quarto che ti dice la classe. No, è inutile passare sopra e poi non. Scusi, ma le squadre le avete messe tutte insieme o nell'ambito delle comunità? No, io quello che sto riferendo adesso per gradi, cioè per adesso sto riferendo come la superficie complessiva si ripartisce nei 7 gradi di produttività. Quindi per esempio io ho 2 milioni e 812 mila pertiche che sono classificate di seconda. Sì, però tenendo presente che. Per adesso quello che sto riferendo riferisce a tutto lo Stato. Poi io l'ho riferito per zone agrarie. Certo. Io sto dicendo che questo è il dato più complessivo, insomma, è anche più generico sì, perché. Però. E per dare un'idea, insomma, di com'era la realtà, insomma, se uno vede per esempio che la terza squadra è il 13%, che la settima squadra, l'ultima, è il 13 per 13, 14, 13,94, insomma, in superficie, che la quinta è lo 0,30, che la quarta è il 3,55, che la terza è il 19, che cosa conclude? Conclude che i terreni erano praticamente di prima e di seconda squadra, perché sono 28 più 35, sono, no? È la parte più consistente. Naturalmente questo ha un'ulteriore conferma nella distribuzione del valore, cioè prendendo il valore complessivo insultato di tutta la superficie, nella prima squadra c'è il 37,85, nella seconda il 37,74 del valore, non più della superficie ma del valore, poi il 14, il 2, lo 0,4, il 7,59, che è in pratica la tendenza che si rileva dalla PAC, con qualche variazione, perché si vede che il valore della prima squadra è così elevato da portare i valori collocabili nella prima squadra al primo posto, mentre erano nel secondo rispetto alla superficie. Quindi questa è la tabella che viene ricavata, come dire, da questo insieme di elementi che sono disaggregati per tipi di cultura. Ecco, io ho anche, per rispondere alla domanda, ma questo non mi sentirei di riferire qui perché è un discorso lunghissimo, insomma, cioè ho la distribuzione delle colture per grado di produttività in ciascuna zona agraria, sia per la piena come per la nuda. Sono questi tabulati da me poi, come dire, ricomposti per zone agrarie. Creando duplicati. Sì, a questo punto devo solo rispondere di sì. Ecco, però sono dei panini imbottiti di questo tipo qui, insomma. Rimano parlare, ma pubblicare. Va bene, pubblicare. Dopo, se a qualcuno interessa in via più specifica, perché io ho il timore del tempo che sta passando rapidissimamente. Il numero dei gelsi. Qui il dato più interessante qual è? Il dato più interessante è la cultura a cui sono associati, cioè da un punto di vista agrario, insomma, no? Dove il gelso era collocato. Io ho un numero modestissimo di gelsi rispetto a quelli che sappiamo formavano il patrimonio dello Stato, perché è 500.000 di gelsi, perché poi sono tutti nella zona considerata, cioè la gran parte è nella zona considerata da bianchi, 544.974, è bello sapere che erano numerati fino a questa decisione. Ecco, in qua... Forse ho detto una fesseria, eh? Sì, va bene. Sì, infatti ho detto una fesseria. No, la fesseria si spiega con questo, che non ho, io ho presente poi la distribuzione persone agrarie, certo, e questo mi è sfuggito in questo momento qui, che nella zona agraria, non, cioè complessivamente, niente, bisogna darlo per zona. Va bene, lo diamo dopo per zona. Stiamo adesso alle culture a cui sono associate. Le culture a cui sono associate maggiormente sono, no, questo è veramente banale, sono gli aratori e gli aratori abitati. Il massimo numero di gelsi è il 42%, è nelle culture, il 42% dei gelsi, cioè il 42% di 544.000 è associato all'aratorio. Il 39% è associato all'aratorio vitato o avvitato. Poi l'aratorio ad acquatorio è il 4%, l'aratorio ad acquatorio è il 2,38%, l'aratorio avvitato ad acquatorio è il 3,40%, il prato 1,17%, il prato d'acquatorio 1,43%. Credo che la conclusione sia evidentissima, insomma, cioè in pratica il gesso è coltivato nell'aratorio. Questo lo sapevamo già per altri versi, ma questa è una buona conferma, no? Questa massiccia presenza dentro. Come tutti sanno, questo incide sul rendimento dell'aratorio, perché dire questo vuol dire un minor rendimento dell'aratorio che ha dentro, appunto. Ecco, per zone, ecco qui che adesso mi vedo subito alla gigantesca gaffa. Dunque, in numeri assoluti e non... sì, in numeri assoluti, in pratica la distribuzione è questa. Media e bassa montagna, 869 gelsi, quella cosa rilevante che ho detto prima. Zona agraria di alta collina 5.697, zona agraria di alta e media collina 25.000, zona agraria di bassa collina 74.000, zona agraria di alta pianura asciutta 291.000, da questo momento è fortemente decrescente, 45.000, 27.000, 49.000, 5.000, 17.000, quindi in pratica la zona di massima concentrazione o di massima rilevanza meglio, e 291.000 con la zona agraria di alta pianura asciutta. No, l'alta pianura asciutta milanese, il milanese pomasso, cioè quella fascia abbastanza ristretta, quella nocciola, sì, è quella di quel giallo marcio, diciamo. No, io da qui non vedo niente. Non è tutta notte di Milano, perché è praticamente questa qui. E questa naturalmente qui risulta abbastanza ampia, poi bisogna distinguerla all'interno. La linea che è la zona Martesano, questa qui, no? Questa qui che segna invece con la bassa pianura. E lo vedono tutti, no? Cosa serve? Subito, sì, così lo abbiamo anche l'elencazione. Non è stato che sui non è stato calcolato anche il quantitativo di foglie che si raccoglie? No. Perché stando al dato, questo è un 800, il raccolto di foglia è inferiore, almeno secondo quello che dice il dato, è inferiore nella bassa rispetto alla media, all'alta pianura e alla media collina, come raccolto, come peso proprio. Ma qui insomma Ioli si ha qualcosa da dire, perché più in via più giusto. No, ma scusa, non è una cosa che mi interessa, ma sempre personale. C'è una forte differenza tra il rapporto di fuori e una base. Secondo il dato c'è. Tieni presente però che da capo questi dati qui non riferiscono delle minute. Non le riferisce. No, qui bisogna solo tenere presente che loro avevano valutato il rendimento del gesso per classificarlo, insomma. Ecco. Però da questi dati qui non può emergere. 25 litri. Sì, tipo come media. Quando un gesso rendeva almeno 25 litri di foglia, veniva classificato in essere. Sì, rendeva 20 litri di foglia. Sì, sotto era considerato ancora in fase, come dire, di crescita, insomma, no? Quindi diventava rilevante quando superava un certo livello. Ma il gesso adulto, in zone diverse, non veniva conteggiato sulla capacità, sulla vis generativa di foglie. No, bisogna tenere presente questo, che gli unici riferimenti sui rendimenti del gesso si ricavano dai processi di perlettato, dove indirettamente attraverso la quantità di seme, no, impiegate, e attraverso il numero dei gessi, sono calcoli che loro stessi hanno fatto, è possibile desumere in linea molto una potenziale molto positiva. Sì. Per quanto riguarda poi la valutazione delle 20 o 25 litri, questa è una valutazione media che loro hanno fatto attraverso un'indagine preliminare nel 24, nel 724, in alcune comunità dislocate, in parte nell'alta pianura e in parte nella pianura intermedia tra alta e bassa. Parlo della pieve di Dairago, ad esempio, della pieve di Corbetta, no? Sono zone intermedie. Sì. Attraverso queste valutazioni sono arrivati, attraverso delle denunce da parte dei sindaci delle comunità, sono arrivati a stabilire che i gessi in essere rilevati comunque rendevano molto di più delle 20 o 25 litri. Sulla base di queste affermazioni, facendo un calcolo così generale in modo da favorire i proprietari, hanno stabilito che il limite era quello non delle 20 ma delle 25. Quindi il limite delle 25 diventa un limite utilizzato per la stima. Per stabilire come, sì, come diceva Bianco, quindi 25 è il limite al di sotto del quale il gesso non è considerato, al di sopra del quale è statisticamente considerato. Insomma, questo è quello che io dicevo. Scusi, che la stima generale per tutti i gessi è 5 sesti, di scudo. Cioè a dire, mentre tutte le colture sono diversamente stimate nelle diverse comunità, per tutto lo Stato, ogni gesso va a 5 sesti. Caso, sì, cioè, non si poteva far diversa. C'erano delle disparità sicuro, con quella prima rilevazione, poi queste sono state eliminate. Ma quella generalizzata la valutazione. Era un po' difficile scendere a creare delle classi di reddito anche per i gessi, perché sarebbe stato... Già erano arrabbiati, come se si sono presi un'arrabbiatura tremenda per il fatto che li hanno numerati, se poi li stavano anche lì, non so cosa succedeva. Dunque, ecco, andando per zone che è la cosa veramente interessante, noi cosa notiamo? Notiamo che nella zona di media e bassa montagna il gesso è associato per il 28%, quindi in modo preminente all'aratorio semplice. Mentre invece nelle altre zone, diciamo le zone di alta collina, nelle zone di alta collina è associato invece all'aratorio abitato al 54%. Se andiamo alla media collina ritorna il valore invece massimo per l'aratorio semplice, così nella zona della bassa collina. Quindi nell'alta collina è associato all'aratorio abitato, nelle altre due invece è associato all'aratorio semplice. E così anche nell'alta pianura asciutta al 48%, mentre invece nella bassa pianura è associato ancora all'aratorio abitato e poi all'aratorio abitato ad acquatorio, ma in percentuali, come dire, sempre più modesti, insomma, no? Perché conta dove era maggiormente presente. Anche questo naturalmente che è una tavola tra le più significative, se si vuole considerare l'importanza di questa associazione naturalmente per qualificare la cultura. Io le ho sia in superficie come in valore capitale, no? Quindi questo dà un elemento importante, insomma, no? per la classificazione delle culture stesse dal punto di vista agrario. Ecco, sempre per procedere rapidamente, insomma, ma poi con l'impegno di tornarci sopra per la discussione e per qualsiasi altro approfondimento, le risposte relative alle classi di ampiezza. Le classi di ampiezza delle partite catastali, quindi classi di ampiezza per partite catastali. Io ho una tavola sintetica in cui riassumo come si ripartiscono le 71.000 partite, si ripartiscono le 71.000 partite e come si ripartisce poi la superficie per le varie classi di ampiezza. Ricordo che le classi di ampiezza sono fino a un quarto di ettaro, da un quarto a due, da 2 a 5, da 5 a 10, da 10 a 40, da 40 a 200 e oltre i 200. Ecco, le partite si ripartiscono così, qui ho i dati assoluti, ho anche le percentuali, invece per la superficie ho solo i dati assoluti, non le percentuali. Comunque, il maggior numero di partite è concentrato nelle classi di ampiezza un quarto, due, 53%. Poi seguono quella precedente, cioè fino a un quarto, il 14%, il 12 nella terza tra i 2 e i 5, e la quinta 8,84 tra i 10 e i 40, la quarta 6,57 tra i 5 e i 10, oltre i 200 lo 0,38 delle partite. E tra 40 e 200? Tra i 40 e i 200 il 3,65. Dunque, allora, visto che Capra lo so particolarmente interessato, quindi do i numeri in assoluto e in percentuale. Anche perché chiedo scusa di non avere ancora le percentuali per le superfici di cui ho i dati in assoluto. Fino a un quarto sono 10.000 partite, quindi il 14%. E nella seconda sono 38.000 partite, quindi il 53%. Li do un po' arrotondati, un po'. E nella terza il 12%. Nella terza fino a? 2,5. Poi nella quarta tra 5 e 10 il 6,57, nella quinta tra i 10 e i 40 l'8,84, quindi 6.318 partite 8,84, poi nella sesta tra i 40 e i 200 2.600 partite, cioè 3,65, e nella sesta 274 partite lo 0,38 delle partite complessive. Ecco, la superficie si ripartisce così, che è il dato più interessante, no? Dopo bisogna anche vedere le medie. E dunque, il massimo di superficie è quella, sono 430.000 pertiche, 435.793 per la precisione, nella terza classe, quella da 2 a 5. Un percentuale? È quello che non c'è. Ah, non c'è la come dire, si fa la svelta, perché basta sommare tutte le superfici che sappiamo essere 8 milioni e si rapporta a questi 8 milioni si rapporta, come dire, il singolo. Quindi sono 435.000 nella terza, 429.000 nella seconda, sì, mi è scappato, 511.000 nella quarta, 1.956.000 nella quinta, 3.887 nella sesta, 1.473 nella settima. Voi avete segnato, no, le ampiezze, quindi e poi le percentuali quando verranno, la tabella ha già predisposto per metterci il numerino, insomma, ma qui sono rimasto un momento indietro. E nella prima non ho detto vi chiedo scusa, sì, giusto, sono 7.639. 7.639 pertiche in cui, che vengono divise tra le 10.000 partite, quindi questo è il punto che conta, così come le 429.000 si dividono tra 38.000 partite, 435 tra 9.000, così come, per dare un'idea ancora più, come dire, che colpe, il 1.473.000 della settima si divide tra quello 0 e 38. Si divide tra 274, e quindi certo è rapporto invece, le maggiori superfici danno meno ripartite e le ampiezze maggiori. Ho anche i valori capitali, ma non ho le percentuali, quindi ve le risparmio. Una cosa interessante adesso diventa, come dire, questa tabella in cui, a cominciare dalle partite, no? Distribuite per aree agrarie, cioè. Io vi do adesso, non in numero assoluto ma in percentuale, la distribuzione delle partite secondo le classi di ampiezza, fino a un quarto, da un quarto a due, due e cinque, e per le zone agrarie. Quindi, per esempio, risulta che le 10.015 partite che erano dentro nella classe di ampiezza fino a un quarto, no? Queste sono presenti al 29% nella media e bassa montagna, quella piccola zona, no? E poi sono rilevanti nell'alta collina col 15%, sono rilevanti anche nella pianura col 18,47%. La pianura tra Adda e Oglio, però, che è una delle pianure delle zone agrarie considerate. Ecco, questo dice l'importanza del disaggregare. Perché nell'ambito della stessa pianura, se io considero la pianura tra Lambro ed Adda, ho un 14,50%, l'altra pianura tra Adda e Oglio è 18,47%, la pianura pavese-lodigiana 16,88%, la pianura cremonese 17%. Sì, non sono degli scarti molto forti, d'accordo, l'alta pianura asciutta è 6,57%. E andiamo all'estremo, così per le cose di curiosità, nel senso che perché sennò diventiamo matti. Io leggo tutto, ma è tanto per me, non è un problema. Cioè. Prendiamo gli oltre 200, ecco, le 274 sono presenti con percentuali molto basse nelle varie aree, ma la più alta è quella della bassa pianura risicola, e anche questo non stupisce, insomma, no? Cioè c'è un rapporto che per noi è confermato dalle altre cose che conosciamo. Si concentrano maggiormente le partite oltre i 200, complessivamente oltre i 200, si classificano, si collocano nella pianura risicola. Poi segue la pianura tra Lambro ed Adda, e anche quella tra Adda e Oglio in successione, insomma, viene immediatamente dopo. Nelle altre parti è modestissimo, insomma, no? Perché questo è da capo. Questo varrebbe la pena di leggerlo, questo è per le partite, è il modo come si ripartiscono le partite per classi di ampiezza. Ecco, se poi si guarda invece le superfici, come si ripartiscono le superfici per classi di ampiezza e per zone agrarie. E qui non è facile, qui bisognerebbe veramente leggere tutto in modo che... perché ci sono molte considerazioni da fare. Procedo abbastanza rapidamente. Fino a un quarto di ettaro cioè considerando la superficie complessiva tutta calcolabile nella media e bassa montagna, quindi il 100 essendo il 26.194 pertiche, e sono lo 0,37 fino a un quarto, 7,75 da un quarto a due, l'11,53 da 2 a 5, il 13,62 da 5 a 10, il 43,74 tra 10 e 40 e il 22,99 tra 40 e 200. Vado avanti così? Dai sempre là di massimo e minimo, che forse ci dare il massimo al minimo, sì, non, bisogna che lo veda rapidissimo. Dunque, nell'alta collina il massimo è tra 10 e 40. Allora, nella media e bassa montagna, ma vi prego di considerare questo veramente, è ancora tra i 10 e i 40, 43 e 74. Nell'alta collina il 21 e 41 sembra essere il massimo, no, è il massimo, non sembra. E nella media invece è tra 40 e 200, nella bassa è tra 10 e 40, adesso c'è l'occhio qui mi tradisce, sono freddo, ma fa niente. Nell'alta pianura asciutta è tra 40 e 200, nella bassa pianura risicola è tra 10 e 40, nella pianura Lambro ed Adda è tra 40 e 200, pianura Adda Olio è ancora 40-200, Pavese Lodigiano è 40-200 e così nella pianura cremonese. E questi dati, di la verità, avrebbero un significato diverso se noi li considerassimo disaggregati per zona agraria, per classi di ampiezza e per gradi di produttività, cosa che io ho, che però dà luogo a una tavola molto, molto complessa alla lettura. Cosa c'è ancora? Ecco, passando adesso dalle considerazioni che riguardano la struttura agraria a quella fondiaria, io ho una tavola che si può considerare quella più interessante, insomma, la distribuzione, cioè delle partite, per gruppi sociali. I gruppi sociali sono disaggregati nei 20 che ho detto ieri. Io ho il totale degli intestatari delle partite, il totale degli intestatari pieni, degli intestatari nudi e poi degli intestatari livellari. Dunque, cosa risulta? Posso chiedere una cosa? In questi casi l'intestazione è doppia. No, non è doppia. Nel caso dell'intestatario nudo o livellante e del livellario, la partita è una sola, però presenta due soggetti che sono diversamente classificati. E compaiono tutte e due lì. Sicuramente, tanto perché ho capito che il punto è questo. Ecco, allora, se noi guardiamo queste ultime due colonnine, cosa notiamo? Notiamo che i nobili figurano come intestatari del 28% delle partite, va bene? Delle partite. Mentre invece se io guardo il livellario per la stessa partita, no? Ma la sua appartenenza sociale, i nobili non contano più niente perché scendono al 3%, invece l'84% è rappresentato dagli altri, cioè dai borghesi. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che davano a livello i nobili nella misura del 28% e gli altri nella misura del 17%, ma il livellario poi appartiene all'84% alla categoria del piccolo contadino, insomma, no? Che noi classifichiamo altro perché non è nobile né ecclesiastico, e utilizzando il registro io non posso dire altro, cioè io mi trovo di fronte a un nome che ho classificato come non nobile e non ecclesiastico e non ente e non altre cose. E ancora, prego. Pensavo che questo fosse la partita, però è sempre intestata all'utilista, se ho ben capito, o al direttario? È intestata tutte e due, cioè figura due volte nel registro. La stessa partita figura intestata al livellante e poi segue l'intestazione del livellare. Allora voi dovreste fare le tante operazioni e anche quella di ridurla o una? No, ma è già fatto. È già fatto. Quando io do le cifre, le do già considero, non facendo il doppio. Certamente. Sì. Allora, per chiarire il punto, però, sono 71.417 partite in totale, di cui 58.126, cioè l'81,38%, intestatari pieni. Il 18,61 intestatari nudi, no? Quindi ricordate che questo 18,61 è quello che occupa quel 4,44 di superficie, perché io all'inizio ho dato una superficie a livello del 4,44, quindi questo 18,61 è quello che si ripartisce il 4,44, invece l'81,38 è quello che si ripartisce il resto, insomma, no? Cioè la gran parte della superficie. È chiaro? Sì, e non avete anche calcolato le proprietà miste, cioè un individuo ha una proprietà che in parte è allodiale, in parte invece è un'ossia, ecco, mista. Ma se è fatto per partite, non c'è problema, perché io ho 71.417 partite complessive, che sono la somma di 58.126 più 13.291, va bene? Poi ho nell'altra colonna 13.291 livellari, che io non ho calcolato, perché 71.417 è la somma di 58.126 e di 13.291. Dall'altra parte però ho potuto anche valutare l'appartenenza a un gruppo sociale di coloro che in concreto lavoravano la terra, per dirla in termini così un po' volgari, insomma, no? Che sono all'84% gli altri. Interessa, sempre nel gruppo dei livellari, dopo la percentuale maggiore è questa, segue poi quella della comproprietà di altri, ma questo non è che una conferma, perché in fondo 84 si potrebbe sommare al 6 perché sono sempre altri. Se uno è interessato a sapere chi è che in concreto coltivava la terra, mette insieme 84,31 più 8,69, perché io ho calcolato distintamente la classe di coloro che sono proprietari, borghesi, chiamiamoli così, singolarmente, e le comproprietà indivise, no? Classificando le comproprietà di altri, cioè quelli che sono tutti borghesi, C3, C5, C10, e invece la comproprietà mista, che non potevo ulteriormente disaggregare, cioè la comproprietà di un borghese e di un nobile, la comproprietà di un ecclesiastico e di un borghese, che d'altra parte ho detto sono un numero modestissimo, insomma, no? Segue poi l'eredità, ma anche questo si capisce, perché dentro il 2,29, no? Perché dentro nell'eredità ci sono gli altri, insomma, no? Vabbè, è difficile da depurare questo 2,29, cioè è impossibile da depurare, il 2,29 comprende tutti i gruppi, insomma, no? Sono quelli che sono dentro nell'asse ereditaria. 84,31 però è un dato interessante, insomma, no? Soprattutto rapportato a quel 28, no? che costituisce invece gli intestatari nobili. Altri intestatari in ordine di importanza sono gli altri al 17%, e poi sono gli ordini religiosi, no? Gli ordini religiosi hanno il 13,20% di superficie, di partite, 13,20 di partite, no? Sono intestate ad ordini religiosi date a livello. Ecco, rivediamo adesso un momento tutto. Totale degli intestatari. L'11,25% sarebbero nobili. Dico sarebbero perché dopo tutti i discorsi di ieri uno... Ma giustamente. Ecclesiastici 2,06. Altri 54,98. Sono sempre le percentuali delle partite. Dopo sulle superfici le cose cambiano radicalmente, intendiamo. Poi... gli incerti sono lo 0,63, le comproprietà il 4, comproprietà mista 0,34, il legato 0,6, l'eredità il 2,48, gli ordini professionali lo 0,07, le comunità l'1,20, la camera regia 0,5, i poveri, cioè gli enti di carità, 0,23, gli ospedali l'1,9, gli ordini religiosi il 5,07, le confraternite il 2,50, le abbazie l'1,98, i seminari lo 0,10, la mensa vescovile lo 0,10, i benefici l'11,14, i collegi lo 0,57. Questa è la ripartizione delle 71.000 partite tra 11 e 25. Ecco, se qualcuno vuole qualche dato, prego. Per quanto riguarda gli ecclesiastici, il problema, io mi aspettavo che venisse posto ieri. Sì, perché ci sono indubbiamente una figura, ma negli ecclesiastici ci sono anche i nobili. Disaggregandoli, gli ecclesiastici nobili sono ecclesiastici o sono nobili? Lei parlava di ecclesiastici clero, persone fisiche? Sì, persone fisiche. Ecco, quando ha detto ecclesiastici, è clero, persone fisiche? Sì, sì, infatti parlo di persone fisiche, ma se sono nobili... Per beni propri, non per beni di chiesa. Sì, perché mi provo. No, no, ma lui ha creato, certo, c'è questo problema. Insomma, se sono, io sono un marchese e faccio il prete, ho dei beni. Noi abbiamo considerato rilevante l'essere ecclesiastico. Noi abbiamo considerato rilevante. Adesso devo dire che io non ricordo un caso di questi qui. Non lo escludo. Non lo ricordo, come dire, nome e cognome. Comunque noi abbiamo considerato rilevante la posizione di ecclesiastico. No, quindi perché volevamo vedere quanto giocava, insomma, questo. È disaggregabile però. Ah, è disaggregabile. Ma basta dirlo. Sì, no, no, ma è disaggregabile, nel senso che se andando sugli elenchi, cosa che deve essere ancora fatta, evidentemente, io non l'ho qui, che non l'ho portato. Ogni gruppo sociale dà un peso di questo tipo qui, quindi sono 20 categorie, di una montagna così, insomma. Sono tutti disaggregabili, nel senso che noi abbiamo la possibilità, tornando sulle schede, di vedere quelli che sono solo ecclesiastici e quelli che sono ecclesiastici. Ma ecco, vorrei capire, sono il Borromeo, per esempio. Sì, sono un volta. Vorrei capire qual è il criterio che vi ha spinto a mettere in evidenza la categoria degli ecclesiastici. Perché volevamo vedere che cosa possedeva colui che possedeva con questo titolo. E beh, considerando la proprietà dell'ecclesiastico non proprietà ecclesiastica. No, vabbè, quello è evidente, ma no, è l'irrilevanza, cioè voglio dire la consapevolezza che viene facendo passare tutto il materiale che quella categoria lì conta poco. D'altra parte è estraibile, quindi se proprio volesse. Non aveva di particolari privilegi in quanto era un ecclesiastico, dopo era un significato. No. Secondo me è molto più banale la cosa. Uno arriva un universo indistinto di individui che possiedono, cerca di classificarli in varia guisa per vedere che. Le categorie fondamentali. Che rapporto tra la proprietà e l'essere appartenente alla categoria. Ma voglio dire, all'inizio uno sapesse la posizione professionale dell'individuo, fa il ciabattino, l'artigiano, e si potrebbe anche fare una cosa di questo tipo. Ma non si può, quindi. Forse questo è un modo di dividere. Sì, però l'ecclesiastico è un prego, prego. Ma bisogna stare attenti alle ordinazioni ad titulum patrimonio, cioè a coloro che vengono ordinati perché possedevano il proprio patrimonio. Questa è una cosa per il Settecento fondamentale. Sicura. Cioè per il diritto canonico. Io non ne so niente di queste cose, però sono coordinazioni particolari che sono possibili soltanto sulla base di un patrimonio, sulla base di un patrimonio familiare, cioè. E quindi mi interessa tutto questo problema. Ecco, però da capo, da quel punto resta questo, che qui veramente vale la pena di rigiocare con la carta, cioè che tutto questo è presupposto di ulteriori indagini. Cioè io mi trovo di fronte a un dato che non mi chiarisce a questo punto qui. Quindi che ci sono due, o io lo trascuro o io lo considero. Io lo considero lo stesso, lo metto nelle statistiche. Chi vuole approfondire qual è la composizione di quel 2,06, io voglio solo dire, il primo che è interessante, il secondo che l'avere messo insieme è molto importante, perché in fondo è meno qualificante, nobile o non nobile, che il fatto che l'ordinazione sacerdotale fosse basata su un certo tipo di patrimonio fisico, patrimonio connesso con le persone fisiche. Io confesso candidamente, tanto alla finatezza non ero arrivato, c'ero arrivato, come dire, sulla base di questo criterio che mi interessava la posizione di ecclesiastico, insomma, no? E quindi che cosa possedeva, o perché suo zio gliel'aveva lasciato, o perché era legato al carico, insomma, no? In buona sostanza, però, io ho 1475 curati, reverendi, eccetera, eccetera, che possiedono. Questo è un punto, insomma, no? Così come poi ho tutte quelle altre categorie, gli ordini religiosi, le confraterne, le abbazie, i seminari, che sono tutti disaggregati e permettono poi i vari compattamenti che si ritenessero. Se interessa, se si guarda la distinzione tra intestatari pieni e intestatari nudi, i nobili dall'11,25 scendono per gli intestatari pieni al 7,32, e mentre invece gli altri, o borghesi, dal 54 salgono al 63. Per cento sul totale degli intestatari pieni, dei 58.126. La cifra totale dei nobili? Dei nobili, dunque, sono 8.038 partite. Sì. Capri, mi raccomando, è chiaro. Lo stesso nobile compare in molte partite, suppongo. Sì. Sono 8.038 partite nobiliari, così tra virgolette. Ecco. sono 39.269 partite di altri, con tutta la composizione sociale che possono avere, insomma. Sono, che so, 72 partite di seminario, sono 74 partite mensa vescovile, perché sono classificate. E le mense quante sarebbero? La mensa vescovile è una o ci sono più o sei? Lo so, ma c'è... No, chiedevo così per curiosità, le mense... Sono 74. Le partite, ma quante mense vescovili ci sono? Sono quelle dei vecchi. Sì, tipo, solo più importanti sono quelle lì, sì. Ma il termine piena e nuda proprietà è usato dal catastro o l'avete creato? No, è usato nel registro, è giunto così. No, termine... Sì, a parte che è un termine comune, non ha bisogno di... Ma figura nel registro chiarissimo. Scusi, tra i collegi è prevalente quelli dei mercanti? Bisognerebbe andare a vedere le leggi. In questo momento qui mi coglie, come si dice. No, sono gli enti privati civili che sono. Sì, si può andare a vedere che cosa abbiamo messo dentro. L'entità non gliela so dire. Io ho 413 partite di collegi e scuole, insomma. Era questo che chiedeva lei, sì. Mi interessava. Però c'è l'elenco. C'è l'elenco alfabetico, quindi si individuano non solo nel numero, ma anche dove. Allora, io poi ho, ma la faccio solo vedere, la tabella che stabilisce la ripartizione delle partite per categorie, quelle dette prima, e anche per zone agrarie. In complesso e poi per la piena, per la nuda e dei livellari, non secondo quelle quattro categorie che vengono stabilite prima. Pubblicare tutto. Io credo che la Bocconi riceverà un invito a dare un contributo. Perché siamo nell'ordine dei milioni, sono la stessa di milioni. Io sono un professore universitario che vive il suo stipendio, quindi il milione è ancora una cosa che lo impressiona. Adesso viene, e io vorrei finire a questo, vi dico ancora queste cose poi chiudo, perché sennò qui i colleghi si arrabbieranno, ma non lo so, non sarà. Le superfici invece, quell'altro dato fondamentale, come si ripartisce la superficie, e fino adesso ho parlato delle 71.000 partite, adesso parlo degli 8 milioni di pertiche. Vi do le percentuali, no? Se volete poi vi do anche i dati reali. La superficie si ripartisce, quell'11,25 di nobili titolari, no, se voglio dire di partite, diventa il 31,55 della superficie. Che vuol dire un'ampiezza media di 314 pertiche. Questo risultato è semplicissimo, si è diviso la superficie per il numero delle partite, per avere un dato molto grezzo, ma che desse un'idea. Gli altri che avevano il 54,98 delle partite hanno il 29,49 della superficie, e difatti la media è scesa a 60 pertiche, e gli ecclesiastici che erano i curati suddetti, che erano quello 2,06, hanno l'1,62. Gli incerti la vengono conta, le comproprietà che avevano il 4,34 delle partite hanno il 3,20 di superficie. E poi veniamo alle cose importanti: le comunità che avevano l'1,20 di partite hanno il 2,45 di superficie, gli ospedali che avevano l'1,09 di partite hanno il 3,62 di superficie, gli ordini religiosi che avevano il 5,7 di partite hanno l'9,82 di superficie, le confraternite che avevano il 2,50 hanno l'1,38, infatti la media è bassissima, le abbazie che avevano l'1,98 di partite hanno il 5,45 di superficie, e hanno un 307 pertiche medie, no? Poi i seminari che erano lo 0,10 delle partite diventano lo 0,21 della superficie, le mense vescovile 0,10-0,64, i benefici che avevano l'11,14 delle partite hanno il 7,46 della superficie, i collegi e scuole 0,57-1,22. E sono gli ordini dei religiosi che hanno l'ampiezza media calcolata in pertiche in questo modo con 368 No, chiedo scusa. Per prima ancora c'è la messa vescovile che ha 699, perché, però il rapporto vale, è solo un indice, insomma, per prendere le categorie in ordine di importanza. No, 699 è l'ampiezza massima, poi che è dei benefici, poi segue quella degli ordini religiosi e poi dopo segue quella che è ben più importante dei nobili, 314, insomma, che si dividono per poco di superficie. Scusa, la percentuale degli enti religiosi per provenienza, 24? Dunque, ecco, qui c'è un grosso problema, Paolo, cioè che cosa consideriamo enti religiosi? Vogliamo mettere insieme l'ordine religioso propriamente detto, la confraternita, abbazie, seminari, sì, si fa la svelta, grosso. Canetta che si specializza in queste cose, 399, 1103, 14, 15, sì, 24%, 23-24%, sì, proprio così, un po' a secondo di quello che si mette dentro si lascia fuori. I benefici vanno certamente dentro, perché questi sono considerati poi a scopo di culto, e quindi stiamo, sì, certo. Più del previsto, certo. È certamente superiore ai dati. Io pensavo di venire qui anche con i dati del Pugliese per fare i confronti. Se avete presente, però, il Pugliese fa un raggruppamento per circoscrizioni amministrative che mi mette un po' in difficoltà, perché le sue percentuali non si riferiscono ai miei ambiti, insomma. Io però posso raggruppare, infatti intendo fare così, siccome ho una zona molto ampia che le più zone amministrative le metto insieme, il Ducato per esempio posso farlo per il Cremonese, posso farlo per il Lodigiano, per il Pavese, meno per le zone che ci dividiamo, insomma, no? Che sono spaccate amministrativamente dalle zone agrarie. Io ho questi dati sia per la piena proprietà come per la nuda, naturalte, e anche per i livellari. Vabbè, ma questo non voglio entrare. Una cosa piccola forse è stata detta ieri, non c'è. Che differenza avete messo tra abbazie e ordini religiosi? Sì, glielo dico. No, è importante. Io le dico che cosa abbiamo ficcato dentro nell'uno e nell'altro, nell'uno e l'altra. Sì, ma se mai dopo. Sì, ma siccome ho finito, intanto che se vuole. Ecco, nelle abbazie abbiamo considerato l'equilibrio delle abbazie, abbiamo messo dentro i monasteri e i conventi. Che fosse poco, no? E negli ordini religiosi? Negli ordini religiosi, tutte le famiglie religiose e le congregazioni ecclesiastiche, quello che loro hanno. Ma per esempio un convento benedettino oppure un monastero francescano, dove lo troviamo? E dunque, lo troviamo dentro, se non sbaglio, nelle. Se è intestato alla famiglia religiosa è dentro negli ordini religiosi, quindi se c'è cappuccini padri cappuccini, ecco, allora per noi è ordine religioso, no, famiglia religiosa. Capito, non è che sia una... Perché noi abbiamo pensato che il bene fosse intestato all'ordine come tale. Ecco, nel 500 non lo so, ma c'è magari questa scritta, ma è un modo abbreviato locale per dire... quel particolare convento. No, adesso quel punto è importante, però io ho presente benissimo questo, che noi troviamo intestazioni di questo tipo, padri cappuccini di, no? E poi monastero di, convento di, distinti. Allora. E questo fa supporre quindi che le intestazioni siano. Ma quindi allora l'ordine religioso come figura giuridica, mettiamo la provincia francescana di Lombardia, possiede... No. Cioè è una cifra altissima, appunto. E no, se considera come famiglia religiosa è dentro tra gli ordini religiosi. Scusi, ma per una domanda invece è intestato ai singoli monasteri. Per esempio, San Benedetto, nella mia epoca è intestato ai monasteri. Non c'è intestazione ordine religioso. Invece c'è chiarissima l'intestazione. Padri Cappuccini, padri Francesco. C'era la famosa abbreviazione Pippino. Per noi, sì. Perché abbiamo creato la categoria. Oh, intendiamoci, questo si possono mettere insieme. No, ma sì, ho capito. Si possono mettere insieme. È strano che siano arrivate la. Guardate, comunque, per queste cose qui, siccome ci sono gli elenchi, non credo che siano quelli che ho portato. Per esempio, ho l'elenco anagrafico delle abbazie. Non so se può interessare. Ma nella giunta, concettualmente, come hanno diviso? Cioè, perché? Certi sono appunto. No, no, questa è un'aggregazione che facciamo noi, a loro non era rilevante. Ma l'intestazione è come intestazione differenziata. Se tu dici si sono fissati i criteri? Sì. No, non mi risulta che abbiano fissato i criteri. cioè lo stimatore e si vede la denominazione locale, usava la denominazione locale, certo. Ma dice che erano più conventi, almeno per quanto mi riguarda, lo stesso ordine poteva avere tre conventi e ogni convento aveva la sua proprietà, non è per, certo, appunto per famiglie, no, ma chiedo scusa, e qui si perde sempre di vista, perché no, ma questa è colpa mia evidentemente, siccome l'intestazione è per comunità, è chiaro che qui è l'intestazione data all'interno della comunità. Quindi se questo convento ha tre sedi che sono in tre comunità diverse, qui mi figura tre volte. Sì, lo so, ma dico anche lo stesso ordine, faccio vedere, a Mantua può avere 4 o 5 conventi, questo... sono contati per convento per come, cioè i francescani di Viadana hanno una proprietà, i francescani di Rena hanno un altro, non vengono riuniti, si può sempre vedere. E infatti si può metterli insieme, si può noi qui sono considerati per località, insomma. Sì, ma anche come enti sono distinti, insomma. Francescani. Io, se qui c'è un errore, è per eccesso di distinzione, non per eccesso di unificazione. No, è al momento del raggruppamento invece che forse che erano indicazioni strumentali. Difatti io ieri ho detto che ho delle grandi perplessità, se le supererò su questo punto qui consisterà in questo, nel darli più disaggregati possibile, in modo che ciascuno poi mette insieme come vuole. Paolo, no, prego, che qui veramente espansione dei conventi femminili e quelli maschili solo con l'elenco, è possibile, ma con l'elenco c'ho l'elenco alfabetico della categoria, lavorando sopra, certo. Sì. Però qui questi dati aggregati non c'è. Perché questo presupponeva quella cosa che non è stata fatta, che si è ritenuta arbitraria, cioè accorpare in testa, insomma, quindi dividere. Quindi io ho per quel che riguarda le abbazie, meno il problema delle omonimie, insomma, però qualcuno c'è, insomma, no? E allora solo di indagine specifiche, insomma, permetterà di vedere se quella che figura il collegio germanico qui figura una volta sola, ecco, la pazzia di Chiaravalle, per dire, mi figura diverse volte, no? E ovviamente, e questa è la stessa cosa, non posso avere le mani dove, no? La pazzia di Chiaravalle, però io trovo per esempio una abbazia Ottoboni, e qui bisogna andare a vedere, anche perché i numeri dicono che erano in comunità in piedi diverse, quindi bisognerà vedere se sono, io qui comunque le ho risultate Ottoboni, ma che non sia il nome del commendatario, no? Va bene, ti prego, Ottoboni è il tipico commendatario, cioè non è il nome dell'abbazia ma del commendatario, il commendatario, ma certo. Non è scritto quando perché l'abbazia goduta, allora non è il cardinale, non c'è la scritta. Le abbazie di Sant'Abbondio, secondo me loro sapevano benissimo di cosa si parlava, certo, e questo bisogna dare un grado di un certo fiducia a chi per lui diventare lì poi fare, no, cioè lo stimatore locale si informava. Quando era Godù, per esempio, il cardinale Valenti di Manto aveva 3 o 4 abbazie e c'è scritto Godù, dal cardinale. Ecco, appunto, se il problema della commenda diventa centrale, certo. Perché i redditi sono incanalati, certo, non verso l'altra, certo, dall'altra parte, verso l'altra parte. Verso il privilegio del progetto di commentare, la commenda, il godimento, diciamo, diventa secondario. Vabbè, certamente, cioè il soggetto c'è, cioè, da capo, cos'è rilevante? Sono sempre diverse interpretazioni. Sì, certo, il soggetto intestatario è quello lì. E poi, certo, dopo quello che sta dietro dal punto di vista economico va ulteriormente chiarito, sacrificando soggetti che hanno godimenti diversi. No? Ritorniamo però alla distinzione appunto ecclesiastici e nobili. Ecco perché appunto si parla. Sì, io capisco anche che d'altra parte sui numeri di questa rilevanza qui non è possibile. Ecco, io più chiudo. Credo che è diverso lo stesso nobile che ha abilito le sue terre, considerando che ha una successione, eccetera, eccetera, è il nobile che gode una commenda in un periodo ben determinato e che dal punto di vista economico sa che cessa con la sua morte, in un certo senso. Per esempio a livello di investimenti o cose del genere, credo che chi fruisce di una commenda, cioè di un godimento di un terreno, ha un comportamento molto diverso dallo stesso che magari per il suo patrimonio sviluppa tutta una serie di azioni di questo mi pare. Il dipende anche se sono fenomeni di quasi eredità delle comunità. Ci sono slittamenti per secoli, quindi questo mi convince che quei dati lì non compariranno. Chiedo scusa, Presidente, diciamo, padrone di casa, sono le 10.32 secondo il mio, cosa pensano i presenti? Di ascoltare il dottor Bianchi mezz'oretta, gli diamo mezz'ora di tempo, poi facciamo la piccola pausa. Facciamo così? Pronto. Ma non essendo io un fumatore mi sento del tutto... È De Maddalena questo, è De Maddalena che... Ieri siamo venuti, sono colpevoli, stamattina va abbastanza bene. Va abbastanza bene, sì. Io devo esporre la situazione della montagna, chiamiamola così, con queste, io ho disaggregato l'intera zona considerata, che è quella della posta, che va dall'Alto Maggiore alle province odierne di Sondrio, di Bergamo escluso, in queste quattro zone lì descritte. Ho posto una zona di collina, una zona di bassa e media montagna, l'area di media alta montagna e l'area di alta montagna. Cioè, come ho rilevato, anch'io mi sono rifatto al catasto dell'11, però all'interno non potevo tenere zone che di loro natura danno la stessa altimetria, perché all'interno ho trovato forti differenze sia sul piano culturale che nella diversificazione per le classi d'ambienza. Quindi ho privilegiato e ho fatto queste quattro zone chiamandole di collina, di fatto è un'alta collina. Ho proceduto in questa maniera. L'individuazione delle aree che presentassero dati di tendenziale omogeneità rispetto alla complessità delle tre variabili fondamentali per il presente studio, cioè rispetto alle colture e al tipo di gruppo sociale di appartenenza del titolare del fondo e alle classi d'ampiezza della possidenza. Faccio un esempio. Tutta la zona in blu doveva andare assieme alla zona colorata in marrone, che io ho chiamato la zona in blu di bassa e media montagna, la zona in marrone di media e alta montagna. Di fatto, dal punto di vista altimetrico, sono tendenzialmente simili, perché do un po' i parametri. La bassa e media montagna va da 200 a 1615 metri, la media e alta montagna va da 265 da 200 a 1620 metri, quindi siamo molto vicini, però all'interno ci sono evidenti differenziazioni culturali, per esempio che prevale il bosco piuttosto che il pasto e via discorrendo, quindi ho dovuto fare questo lavoro. Prima vedermi tutte le comunità e poi in base a queste tre variabili aggregargliele. Sostanzialmente quindi io ho disaggregato in quattro zone, la collina, la bassa e media montagna, la media alta montagna e l'alta montagna. Quale perticato mi risulta? Mi risultano 2.676.000 pertiche milanesi così distinte, il 21%, quasi il 22% in collina, la bassa e media montagna il 44%, la media alta montagna il 19% e l'alta montagna il 14%. Per quanto concerne la distinzione tra la piena proprietà e il livello, qui è terribilmente modesto il livello, infatti non raggiunge neanche l'1%. Il 98%, neanche il 2%. Il 98% è la piena proprietà e l'1,98% è il livello, sempre sulla zona generale. Guardando alle diverse aree, in collina abbiamo la maggior concentrazione di livello, cioè facendo le percentuali sull'area di collina. Infatti ho il 93% di praticato in piena proprietà e il 6% a livello. Di mano in mano che si sale in altimetria, il livello va via via scomparendo. Infatti già nella bassa e media montagna ho soltanto l'1% di praticato in livello, diventa questo 1% lo 0,94% nella media e alta montagna, per addirittura scomparire praticamente, sono soltanto 57 pertiche, lo 0,01%, di livello nell'area di alta montagna. Ecco, per essere velocissimi, io mi ero fatto degli appunti da leggere, da esporre bene, però qui i tempi sono molto stretti e accelerati. Per quanto concerne la distribuzione delle colture, ecco, in generale le colture in montagna vengono così, nel complesso della zona considerata, vengono così distribuite. Il bosco è prevalente, è il 27% di tutto il perticato del bosco è prevalente, il 27%. Il pascolo è il 16%. Il perticato senza valore, cioè le rocce nude, le ghiaie, via discorrendo, è quasi il 15%. Poi lo zerbo, il 10%, e la brughiera è il 6%, cioè sono circa 168.000 pertiche di brughiera. Questo può essere un dato interessante per tutte le discussioni che possono succedere nel secondo Settecento per l'alienazione delle brughiere anche nella zona di montagna. Quindi le brughiere in tutta questa zona risultavano il 6% del praticato complessivo. Gli aratori nel complesso erano il 10%, si dividevano 6% l'aratorio asciutto, l'aratorio semplice, e il 4% l'aratorio abitato. I prati nel loro complesso non raggiungevano l'8%. Ecco, questo è in sostanza l'andamento del verticato nella zona complessiva. Una diversificazione si ha nelle diverse aree. Il bosco in collina è ancora notevole, però in collina è l'aratorio nel suo complesso a superare in percentuale tutte le altre colture. Infatti siamo circa sul 28% di aratorio, mentre il bosco è circa il 19%. Quindi abbiamo il 29% contro il 19%. I prati sono l'8%, il pascolo è il 7% e la brughiera è qui la più consistente, è il 18%. Mentre salendo in altimetria per la bassa e media montagna, la zona segnata lì in blu, abbiamo che il bosco comincia ancora a prevalere di nuovo con quasi il 30% di perticato. L'aratorio diventa l'8%, mentre il pascolo è il 18%, le brughiere cadono al 4%. La stessa situazione si può dire viene confermata nella media alta montagna, però con una grande prevalenza di bosco rispetto alla zona di media e bassa montagna, cioè a dire il bosco sale a quasi il 34%, il pascolo al 15% e gli aratori cadono al 2%. La brughiera rappresenta soltanto il 2%. Per la zona di alta montagna abbiamo invece un'inversione, cioè per la zona segnata in rosso abbiamo che il pascolo è prevalente con il quasi 23%, mentre il bosco raggiunge il 19% del praticato. Gli aratori, che sono praticamente dei coltivi zappatori, non raggiungono il 3% in questa zona. Il livello è modestissimo, non so se convenga star qui a dire un po' come vanno le cose, perché erano soltanto 53.000 pertiche. L'unico rilievo che si può fare è questo, che per la superficie data o presa a livello prevale l'aratorio, cioè a dire cade il bosco preso a livello, ma prevale l'aratorio, cioè l'aratorio nelle sue due componenti di aratorio semplice e aratorio abitato raggiunge quasi il 37% della superficie, mentre il bosco è soltanto il 28% della superficie, il pascolo è il 6%, i prati sono l'8%. Questo per dire appunto come le terre che venivano prese a livello appunto erano quelle più significative, quelle a colture intensive. La distribuzione dei gelsi. I gelsi in totale, quelli in essere, come si diceva prima, quelli rilevati a catasto, erano 26.193 complessivi, di cui in piena proprietà vi era il 93%, quasi il 94%, a livello erano il 6%, questo nel complesso. Dove si concentrano? Evidentemente si concentrano nella zona di collina. Infatti nella zona di collina abbiamo sul perticato della zona, sui gelsi della zona di collina, che erano 14.000, abbiamo l'89% di piena proprietà, 10% ad alto livello. Forse se li do in base ad ogni 100 pertiche rende di più l'idea. Complessivamente ogni 100 pertiche di tutta la zona abbiamo 0,9 piante di gelso ogni 100 pertiche. Invece in collina abbiamo 2,4 pertiche, 2,4 gelsi ogni 100 pertiche, quindi tutto viene concentrato in collina. Perde di mano in mano questa concentrazione salendo in altimetria. Infatti nell'area di bassa e media montagna abbiamo 0,75 gelsi ogni 100 pertiche, 0,47 nell'area di media e alta montagna, per arrivare a 0,1 gelso nell'area di alta e di alta montagna. E quindi erano modestissimi i gelsi nella zona considerata. Come si ripartiscono in base alle colture? In base alle colture abbiamo, quanto ha già detto prima il professor Zaninelli, anche qui si ripercuote la stessa situazione, cioè a dire la massima parte, quasi il 50% dei gelsi sono concentrati nell'aratorio semplice, il 18% nell'aratorio vitato, il 15% nel prato, il 13% nel ronco, il rimanente 3,27% si ripartiscono nelle altre colture. Per quanto concerne la distribuzione della piena proprietà per gruppo sociale in generale, qui abbiamo questa situazione. La grande prevalenza del perticato degli enti pubblici civili, cioè a dire delle terre comuni. Abbiamo il quasi 52% di tutte le terre della zona presa in considerazione che appartengono alle comunità. In seconda posizione stanno gli altri con il 26%, e quindi abbiamo i nobili con il 5,49% e ancora le comproprietà con il 5,48%. La proprietà ecclesiastica nel suo complesso, raggiunge il 10% della superficie, con il 17% di valore capitale, e poi questa viene frazionata. Ecclesiastica o detti ecclesiastici? Ecclesiastica nel suo complesso, cioè a dire questa viene frazionata, nei benefici per il 3%, che è la maggior consistenza della proprietà ecclesiastica, le abbazie con l'1,33%, gli ordini religiosi con l'1,67%, se comprendiamo anche gli enti caritativi qui nella proprietà ecclesiastica, con il 2,10%. Nel complesso quindi la proprietà ecclesiastica era alquanto modesta, a mio parere, era il 10% su tutto il praticato, complessivo considerato. Ecco, gli enti pubblici civili appunto prevalgono perché, come lo sappiamo, le terre comuni era una delle caratteristiche di sfruttamento della zona di montagna. Quindi il paragone è immediato, gli enti pubblici civili erano avevano il 52% della superficie, gli altri il 26% della superficie. In rapporto all'ampiezza media, se facciamo appunto i rapporti, l'ampiezza media però dà questa indicazione. I nobili avevano 315 pertiche. Mediamente. Il rapporto tra il verticato e il numero dei nobili, dei titolari. Gli altri avevano in media 20 pertiche ciascuna. Il clero, persone fisiche, 44 pertiche ciascuna. I benefici, 39 pertiche via discorrendo. Quindi, mentre si constata che sono gli enti pubblici civili ad avere la grande prevalenza di superficie e in secondo luogo stanno gli altri, vediamo che il rapporto tra la superficie posseduta e il numero dei titolari, l'ampiezza media prevalente è quella dei nobili, con 315 pertiche, 20 pertiche invece per i cosiddetti altri. Questa situazione viene ad essere confermata per la zona, diciamo, di media e alta montagna, mentre per la zona di collina constatiamo che sono i nobili ad avere la prevalenza. Infatti in collina il 20% della superficie è posseduto dai nobili. Scusate, o meglio, gli altri hanno il 34%, i nobili il 20%, mentre, questo che volevo sottolineare, gli enti pubblici civili cadono al 15%. Nelle altre zone, invece, la situazione va via via rimarcandosi. In media montagna gli enti pubblici civili posseggono il 53,97%, quasi 54% della superficie, addirittura nella media e alta montagna saliamo al 70% di superficie posseduta dagli enti pubblici civili, cioè dalle comunità, e nell'alta montagna, la Val Sassi e la Valtaleggio, arriviamo al 71% delle terre possedute dalle comunità. Ecco, per quanto concerne il livello, anche qui è lo stesso discorso che faceva prima il professor Zaninelli, cioè a dire, mentre per quanto concerne i livellanti sono gli altri che emergono, ma sono anche i nobili che stanno a ruota, cioè a dire il 24% della superficie è data a livello ed è posseduta dagli altri come nuda proprietà e i nobili hanno il 19%, mentre le abbazie danno a livello quasi anch'esse il 24% di superficie, la faccenda si ribalta per coloro che invece prendono a livello, cioè a dire sono gli altri che raggiungono il 64%, mentre i nobili cadono al 3%. La distribuzione della proprietà fondiaria per gruppo sociale e per tipo di coltura in complesso. Anche per queste tabelle inizierei dall'esame delle colture degli enti pubblici civili, visto che posseggono quasi il 52%, cioè a dire, di questo 52% che posseggono gli enti pubblici civili, all'interno com'è la composizione colturale? E la composizione nel suo complesso può essere vista sotto un duplice aspetto, cioè a dire, sulla superficie di ciascuna coltura e all'interno della proprietà degli enti pubblici. Infatti noi vediamo che dal punto di vista di quanto pascolo possedevano gli enti pubblici civili su tutto il pascolo posseduti dagli enti pubblici è il 63%, il bosco è il 54%, addirittura la costa boscata raggiunge il 78%, mentre l'aratorio, cioè quanto aratorio posseggono gli enti pubblici civili su tutto l'aratorio considerato, posseggono pochissimo, posseggono l'1% di aratorio. Se poi andiamo a vedere all'interno della categoria degli enti pubblici civili, cioè a dire all'interno le loro colture come si distribuiscono su 1.356.000 perdite, allora vediamo che riemerge l'importanza del bosco, cioè a dire il 28% delle terre possedute dagli enti pubblici civili era bosco, il pascolo era il 20%, lo zerbo il 14%, il perticato senza valore addirittura il 24%. Invece, per quanto concerne i nobili, per esempio, i nobili quanto posseggono di aratorio? Cioè, su tutta la superficie di aratorio, i nobili posseggono il 14% di aratorio semplice e il 12% di aratorio abitato. Il 14% del prato abitato e il 16% del prato ad acquatorio. All'interno invece di gruppo, sulla composizione delle terre di gruppo, abbiamo ancora una forte prevalenza del bosco, il 19% del bosco e quasi il 12% di pascolo, cioè a dire continua a caratterizzare la situazione della montagna, anche se essi possedevano, che so, il 26% in totale di aratorio. Sull'aratorio, all'interno delle colture invece di gruppo è ancora il bosco che prevale, proprio per la composizione della qualità della zona che stiamo considerando, cioè lì della superficie a bosco, a pascolo e via discorrendo. Gli altri, la caratteristica degli altri, ecco, gli altri posseggono il 51% di aratorio, classificando su tutto l'aratorio, quanto posseggono gli altri? Il 51%. Dell'aratorio abitato posseggono il 58%, del prato semplice posseggono il 54%, e del bosco soltanto il 24%. Ma all'interno della classificazione, sulle loro 677.000 perdite, la percentuale ancora si ribalta, è ancora il bosco a prevalere con il 25%, il pascolo con il 12%. Quindi è una continua messa in risalto della caratteristica appunto culturale della zona considerata, dove appunto prevale sempre il bosco e il pascolo, e lo zerbo, l'incolto e addirittura il perticato senza valore, così classificato già nei registri catastali, viene proprio chiamato perticato senza valore, sui ceppi e sono ghiaie, sono alvei di torrenti abbandonati, di discorrenti. Ecco, qui potrei far passare ancora tutte le altre categorie, forse conviene dire della possidenza ecclesiastica nel suo complesso, cioè a dire abbazie, ordini religiosi, benefici, eccetera, eccetera. La possidenza ecclesiastica nel suo insieme detiene per il complesso della zona in esame quasi il 23% dell'intero perticato dell'aratorio semplice, il 19% della superficie adibita all'aratorio abitato, il 13% del perticato prato semplice, il 26% del prato abitato, e via discorrendo. All'interno però succede ancora la stessa cosa di prima. Il bosco e la brughiera hanno il 10%, il pascolo il 7%, sono sempre queste colture a prevalere. E poi potrei fare l'esame di ciascun componente della possidenza ecclesiastica, che sono i benefici all'interno che cos'hanno e via discorrendo. Però sostanzialmente la possidenza ecclesiastica appunto possiede il 23% dell'intero praticato dell'oratorio semplice, il 19% dell'oratorio abitato e discorrendo. Sempre per essere rapidissimi, sono all'ultima cartelletta, quindi sto nella mezz'ora prefissata. che mi dice la distribuzione per classi d'ampiezza nel complesso, la distribuzione per classi d'ampiezza nel complesso e per le diverse categorie e per le diverse zone agrarie considerate. Io ho distinto, poi faccio le suddistinzioni, però come di primo accostamento al problema ho distinto la piccola proprietà fino a 5 ettari, la media proprietà da 5 a 40 ettari, la grande proprietà oltre i 40 ettari. Allora, la tabella mi dà questi risultati. Su proprietari intestatari di partite catastali, il 93,62%, diciamo il 94% dei titolari di partita, si distribuivano il 18% di superficie, fino a 5 ettari. Se poi vado a vedere all'interno, cioè frazione dico, di questi 93,62% che si distribuiscono il 18,51, quanti erano i proprietari che possedevano superficie fino ad un quarto di ettaro? E qui emerge evidentissimamente il grandissimo frazionamento che c'è nella zona di montagna, cioè a dire il 40% dei titolari si distribuivano l'1% di superficie. Se poi passo tra un quarto e due ettari, vediamo che il 43% dei titolari si distribuisce il 9% di superficie. Tra 2 e 5 ettari le cose incominciano ad equilibrarsi maggiormente. Infatti abbiamo il 9% dei titolari che si distribuiscono l'8% di superficie. Riassumendo, abbiamo che il 94% circa dei titolari si distribuisce la superficie pari al 18%. Per quanto concerne la media proprietà, cioè a dire tra 5 e 40 ettari, abbiamo che il 5% dei titolari si distribuiscono il 16% di superficie. E quindi sarebbe interessante andare a vedere quali sono questi titolari. E abbiamo questa tabella, questa grande tabella. Prima, nella piccola proprietà, cioè a dire il 93% dei titolari, il 94% che si distribuisce il 18%, e in particolare addirittura il 40% che si distribuisce l'1%, chi sono? Il 68% appartiene alla categoria degli altri. Quindi il grande frazionamento in testa ai non titolati, ai non ecclesiastici, ai non nobili. In questa situazione invece, nella seconda parte, della media proprietà tra 5 e 40 ettari, dove il 5% dei titolari si distribuisce il 16% della superficie, incominciano a sopravanzare invece la presenza dei nobili. In particolare poi abbiamo l'ultima categoria, la grande proprietà oltre i 40 ettari, dove, e mi spiego subito chi sono, dove l'1% dei titolari possiede il 65% della proprietà. Ma qui entra subito la constatazione degli enti pubblici civili. Cioè a dire, gli enti pubblici civili, le comunità, possedevano essenzialmente nella categoria della grande proprietà. Quindi grandi estensioni a pascolo, grandi estensioni a bosco, tant'è vero che nella grandissima categoria, cioè a dire oltre le 3.055 pertiche, cioè a dire oltre i 200 ettari, abbiamo ben l'89% di proprietari che sono rappresentati dagli enti pubblici civili. Questa situazione viene a ripercuotersi nelle altre zone agrarie considerate, mediamente come appena detto, ma però con la particolare situazione dell'alta collina, insomma, della collina, della zona lì messa in verde, dove le comunità posseggono molto di meno. Infatti abbiamo che nella piccola possidenza fino a 5 ettari i proprietari, che prima erano il 93%, sono qui l'87%, che si distribuiscono ancora il 18% della superficie. Per quanto concerne invece tutte le altre zone agrarie considerate, potrei darvi minuziosamente le percentuali, però sostanzialmente riflettono la media generale vista prima. Ecco, arriviamo per esempio, anziché al 93% dei proprietari che si distribuisce il 18% di superficie della piccola possidenza, cioè fino a 5 ettari, arriviamo nella media e alta montagna, cioè a dire quella peculiare zona colorata in marrone che ha sempre dato notevoli fastidi e problemi per la sua classificazione. Abbiamo che quasi il 97% dei titolari si distribuisce nella piccola possidenza soltanto il 12% della superficie. E quindi c'è un grandissimo frazionamento soprattutto nelle pievi di Borlezza, di Gravedoma, di Solico, che non potevo tenerle unite alla media o all'alta montagna, proprio perché ha delle caratteristiche specifiche tutte sue, sia come cultura, il bosco che prevale sul pascolo o viceversa, sia nel grandissimo frazionamento. Ecco, questo è in sintesi stringatissimo, mezz'ora. Scusate. Un attimo solo, tu, d'accordo, mi rendo conto che i tratti morfologici di questa zona hanno reso inevitabile questi altri criteri, aggiungere questi altri criteri, sì, particolari diversamente. Ma domani noi nell'utilizzare questi dati commetteremmo un atto arbitrario se prendessimo la parte collinare, quella segnata in verde, sì, mi pare, sì, sì, e la aggregassimo, la compattassimo con la collina sotto quella del cielo. No, cioè a dire, qui è più alta collina che non bassa collina. E quindi si può benissimo collina, aggregare senz'altro e dare un quadro generale. Per arrivare fino a blu. Ecco, sì, arrivare sì, fino... Si può benissimo aggregare e dare un quadro generale se la domanda fosse vediamo un po' la situazione delle colture nella collina nel suo insieme. Cioè il vigneto, quant'è il ronco, quant'è il discorrente. E addirittura non si potrebbe trasferire questo discorso, tengo conto delle sue considerazioni giustissime, mi sembra, anche la zona marrone per la parte più bassa, cioè intorno a Borlezza, intorno a Ostle, portandola alla collina, ecco, io avrei dei dubbi, dal punto di vista altimetrico d'accordo, quando arriviamo no, sui 200-300 metri di altitudine va bene, però dal punto di vista delle colture no. Per esempio mi scompare la vigna, c'è bosco, c'è pascolo, cioè non posso assimilarla nonostante l'altimetria sia simile alla parte collinare dal punto di vista sia del frazionamento, sia dei possessori, gli altri anziché i nobili eccetera, sia delle colture, sono costretto a tenerla disaggregata. Infatti è stato il grosso lavoro prima fatto per zone agrarie secondo il catasto dell'11 detto prima e poi la constatazione effettiva della grande diversità culturale rispetto alla stessa altimetria della zona contigua. Beh, certo, l'altezza più bassa però non comporta una modificazione, una radicale modifica, adesione del clima locale a questo, esatto, dei 200 metri che si trovano giù. E poi 200 metri di Borlezza sono freddissimi. E poi per esempio, mi perdoni, non so, supponiamo gli altri che posseggono in collina a 200 metri, mentre la comunità che possiede a 200 metri in Borlezza. Il clima è tale da rendervi completamente diversa la possibilità di sfruttamento di suolo. No, di cui non abbiamo fatto cenno. E cioè noi abbiamo per certe domande messo nel calcolatore anche le particelle geometriche catastali per classi di ampiezza, quindi sono venuti dei numeri ci sono, è solo che in questo momento qui, no, aspetta un momento, intanto che magari va avanti la discussione, io cerco tra le carte, perché per evitare confusioni. Aspetta, Marco, che tu sei anche dopo. Certo che è un dato importante, solo che avevamo pensato di non considerarlo, almeno a questo stato qui di Non ho i totali, dunque, aspetta un momento, che non voglio fare continuare, i livelli della nuda proprietà. Li ho per piena proprietà e per nuda proprietà. E li ho per ampiezze, per classi di ampiezze, quindi tu dovresti fare i totali. Tu vuoi il numero complessivo delle particelle geometriche, eh? E non so se c'è un macchinino per... No, non l'ho più, dammi un secondo. Ecco qua, sono quelli, sono indicati, evidentemente, a casa. Questi sono per la piena, scusa, per la piena proprietà, e questi sono per la nuda proprietà. No, noi ci chiudiamo per far vedere, sì. Prima di uscire. Va bene. Noi dovremmo discutere adesso sulle cose che sono state dette, i problemi che... C'è una tabella su cui ho numerose perplessità, che è la tabella in cui avete suddiviso il territorio dello Stato per squadre, perché se, come si è detto ieri, ha un senso relativo, eppure secondo me in un certo senso l'avrebbe, di riportare lo scudato e fare tutti i confronti anche sullo scudato. Quello delle squadre mi pare molto molto opinabile, perché le squadre erano proprio stabilite comunità per comunità. Voglio dire che è chiaro che l'enorme maggioranza si concentra nella prima e nella seconda squadra, perché in ogni singola comunità si partiva da una prima e da una seconda squadra. Certo. La prima squadra di una determinata comunità poteva corrispondere alla terza di un'altra comunità, magari di una comunità vicina. Ma in ogni caso si partiva, cioè non si aveva un sistema di squadre omogeneo per tutto lo Stato, per cui i singoli terreni venivano magari in una comunità, comparivano solo ieri, di terza e quarta squadra, ma comparivano sempre dalla prima in quanto era il migliore dei terreni. Allora, a questo punto, essendo proprio una valutazione comunità per comunità, l'aggregare per squadre mi pare appunto che comporti dei grossi problemi, cioè almeno susciti dei grossi problemi. Mettiamo insieme ancora un po' di domande e poi... Mi ha rubato la domanda. Puoi aggiungere di cui siamo. Posso chiedere una cosa? Bianchi prima ha fatto presente, cioè ha dato degli elementi sull'incrocio di due tipi di tabelle, quelle per classi di ampiezza e proprio per gruppi sociali. Sì. Lei l'aveva enunciato, forse ce l'ho io, dare qualche elemento. Sì. Allora, incrocio tra classi sociali, diceva, e gruppi, classi di ampiezza e classi di ampiezza. Due parole. Il primo è, veramente avete discusso ieri sulla cosa e quindi così rischio di far riprendere qualche secondo in più, però così mi serve per verificare. Quando si fa il caso di ampiezza non esiste ovviamente nessun criterio di per sé giusto o sbagliato. Infatti abbiamo parlato con i criteri giustissimi. Però c'è un problema da non dimenticare, c'è un problema della confrontabilità. E cioè, se noi facciamo su Lombardia classi da 5 a 20 e sul Piemonte da 1 a 10, nel Regno di Napoli da 1 a 50, dopo anche non possiamo più fare dei confronti a Genere. Fra l'altro è giusto che altro avere un ettaro in Liguria, altro avere e quindi il problema non è che possiamo portare così brutalmente. Però ecco, quando ci siamo posti il problema qualche anno fa, avevamo risolto in questo modo qui. Primo, arrivando comunque ad alcuni metri che erano quelli delle richieste medici negli anni 30, cioè fino a 5, 10, 50, 100, a questi dati comunque c'era. C'era. Poi all'interno di questi forse si divideva e chi più ne faceva meglio era, infatti appunto, arrivato alla fine a una ventina di classi, no? Che non avevano senso, cioè, la bellezza grafica o meno, ma però avevano questo significato, cioè che dopo l'intero si poteva raggruppare come si voleva. Ma a questi tipi di raggruppamenti, cioè a questo livello, ci arrivava questo motivo qui, perché poi i medici, per motivi soli, non so bene perché, diceva che la piccola va da 1 a 10, la media da, mi pare, da 10 a 100, la grande oltre 100, cose del genere, oltre 500, cose bene. Questo è un problema. Invece qui, a meno che appunto se detto proprio classi minori, mi pare da 5, no, no, no, è da 0 fino a un quarto di ettaro, da un quarto di ettaro fino a 2 ettari, da 2 a 5, quindi sotto al 5 ci sono 3. Perfetto. E dopo dai 5. Dunque si va poi dai 5 ai 10, poi dai 10 ai 40, poi dai 40 ai 200 e oltre i 200. Non ti sei posto questo problema del rapporto rispetto ai famigli, cioè se abbiamo... Guarda, io fortunatamente ho qui questa tabellina che mi è servita, perché io ho confrontato i lavori Pugliese Romani, Rotelli Perimola, Cazzola Ferrara, Curisini Ravenna, Rotelli Forlì, Rotelli Chieri e Sempione. Basta, si dà caso che si sia dedicato. E in effetti c'è una diversa... E soprattutto per le prime classi che non si coincide, perché poi le altre, per esempio tu per Chieri hai dato, ma anche per Imola, insomma, no? Quando tu stabilisci tra 200 e 300, 300 e 500, oltre i 500, che crei, disaggreghi di più, insomma, io invece faccio oltre i 200 e chiuso. Teniamo presente però che c'è sempre la possibilità, dato il fatto che sono stati caricati in atti e ci sono i dati, è possibile, sì, con un lavoro non da poco, ma sarebbe anche possibile. Certo, ci siamo anche posti il problema che se volevamo molti incroci dovevamo ridurre le specie, insomma, no? Perché se no veniva una cosa mostruosa e al limite anche senza senso se si sofisticava troppo nelle... Ma quello che c'è appunto, certi appuntamenti, diciamo, su certi dati, che riguardano, non ricordo più bene quali fosse esattamente, perché sono tanti anni, però erano quelli di medici, cioè quelli che medici aveva fatto una sua inchiesta, ecco. No, io ho guardato più il criterio, ho seguito più il criterio di precedenti lavori storici e quindi Pugliese Romani. E questa era la classificazione che Pugliese prima e Romani poi hanno seguito. No, diciamo che tu qui hai elencato, per esempio, per Chieri sono 18, sono tante. Sono tante, e certo, permettono, io credo che tuo permettono di essere più articolati nel discorso. Ecco, io ammetto che forse per la montagna, si diceva ieri, andare un momento al di sotto del 4 di ettaro potrebbe essere utile, insomma, no? Rosa De Maddalena faceva presente questo. Ovviamente il secondo problema era quello che dice poco fa le parcelle, perché è che in uno di questi lavori, Rotelli Chieri, io avevo fatto anche i dati delle parcelle catastali. Perché? Perché la parcella catastale è un, mettendo i temi dinamici, cioè confrontando vari catasti, ci permette di conoscere se esiste un accorpamento della proprietà fondiaria oppure no. E questo è un dato abbastanza rilevante. Cioè, la proprietà terriera ci dice l'ingrossamento, l'evoluzione di certe classi, di gruppi, ma l'azienda agricola, che è l'altro elemento molto importante nell'agricoltura, ci viene molto di più invece dalle parcelle. Cioè, per esempio, c'è un'azienda agricola che hanno, sono 10 in montagna soprattutto, tante parcelle diverse separate in varie parti della zona, cioè non sono aziende agricole vere e proprie. Secondo, mentre in pianure le parcelle sono più grandi, oppure no, non lo so, dipende dalle zone. Secondo problema, quindi problema di accorpamento eventuale delle parcelle, significa una creazione di aziende agrarie. Può significare, me l'ha detto la cosa, può significare. Così come, questo è importante, perché? Perché se, poniamo l'ipotesi astratta, nel 2-3-400 avessimo avuto la terra suddivisa in boschi, in cui ciascuno ha la sua parcella, prati, in cui ciascuno ha la sua parcella e così via, la trasformazione delle campagne la vediamo molto bene nell'accorpamento. Normalmente uno fa un'azienda, si deve fare il problema di mettere insieme appunto terre contigue e poi suddivide all'interno di quelle terre il prato, il bosco e così via. E quindi per questo appunto la mia opinione è che io, è una cosa molto noiosa e faticosa, ma è interessante, insomma, cioè ha una sua rilevanza rispetto alla storia algaica, delle particelle. Scusa Rotelli, ma c'è un chiarimento da dare. Ed è che secondo questo catasto che ha fornito la base per il nostro lavoro, e forse c'è una la particella geometrica, io l'ho intesa ed è lì elencata in un senso diverso, cioè il registro catastale nostro porta l'intestatario della partita, la partita poi è divisa in particelle geometriche ad ognuna delle quali è attribuito un tipo di cultura. Di questa particella geometrica si dà la superficie, il valore unitario, il valore complessivo che poi concorre a dare il valore della partita nel suo insieme. Ho l'impressione che tu ti riferissi in questo caso alla quella che per noi diventa una partita, perché per esempio il fatto di avere non contiguamente dei pezzi, degli appezzamenti, qui nel nostro catasto da luogo ha delle partite distinte. Perché il catasto teresiano lavora in questo modo, definisce la partita complessivamente e all'interno della partita le particelle geometriche contigue che formano la partita stessa. Quindi una partita può essere formata di 10, 5, 3, 20, 50 particelle geometriche. La particella geometrica è l'unità minima di cultura. È l'unità minima di cultura, capisci? Quindi il problema che dici tu, secondo me, viene superato qui vedendo la partita. Queste tabelle che ti ho dato, per questo forse si conferma che è eccessivo il tipo di disaggregazione, anche se può essere utile per capire meglio le culture. Qui sono, quando per esempio si vede questi numeri, 239.000 partite, ma è sbagliato perché il calcolatore ha scritto partita, ma voleva dire particella, tant'è vero che il numero delle partite è molto minore, perché le partite aggregano le particelle geometriche. Cioè, a mappa per intenderci, tu hai la partita, la quale è sezionata all'interno, divisa all'interno, e dalle particelle geometriche, insomma, no? A cultura diversa, tant'è vero che anche il disegno, come dire, il disegno della mappa mette in evidenza dove ci sono le piante, dove c'è la lavatoria, usano i colori. Ora, quella lì è, nell'intenzione della giunta, doveva essere l'unità di base da valutare, perché per ogni cultura, quindi per ogni particella, viene data la superficie e il valore. Quindi allora quello che tu chiedi si risolve attraverso la partita, perché per noi è partita, quella che tu hai chiamata partita. No, è linguaggio diverso, ovviamente qui basta intendersi, no? Quella che tu chiami parcella è la partita, cioè, nel linguaggio, come dire, nel forse, però all'interno di una comunità, anche se le proprietà non sono contigue, la partita diventa unica o restano partite distinte? Dunque, ma è mai capitato? Io non ricordo di aver visto una cosa di questo genere qui. Nell'ordine, all'interno del registro, la partita è indicata con un numero progressivo, no? E può essere intestato 2 o 3 volte. Sì, però io non ricordo, adesso se lei andasse a vedere... Da una volta sola. Io non ho casi della stesso, cioè del ripetersi allora, del... Però, forse... però attenzione, perché allora questo farebbe supporre una cosa che non può essere, cioè che esistano intestate ad una persona 2 mappe catastali. E questo non è. 2 numeri di mappa. 2 numeri. Quindi il caso non doveva presentarsi, io non l'ho presente, cioè dell'esistenza all'interno della stessa comunità di un proprietario che è citato 2 volte, questo è da escludere. Allora però non si può presentare. Mai citato 2 volte, questo è chiaro, mai citato 2 volte. Bisognerebbe andare sulla mappa per vedere se ecco, è compiuto o non è compiuto. In questo caso la partita non coinciderebbe esattamente con il suo concetto di partita. Certo, certamente. Lui ammette i bei catasti etni medievali in cui a detrimento della chiarezza nella descrizione delle colture si privilegia l'unità. Ecco, e allora lì quel discorso che facevi su Chieri, cioè di accorpamento, quello risulta chiaro, ma così non quindi è. Quindi non è così, certamente. Scusa un momentino se faccio una parentesi. Vorremmo sapere a che ora ci sarà la colazione. Io faccio le 12:20 e se la discussione, qui dipende da noi, insomma, noi tiriamo fino alla 1, va bene tirare fino alla 1, diciamo. Allora, se la discussione chiude adesso tra un momento possiamo sentire Cova, se la discussione andasse avanti molto il sacrificato è Cova in questa situazione qui, ecco, non... Allora io fisso per 1:30 su. Coppola, aggiungi anche me, io prima non avevo alzato la mano. 1:30 su. Se però finiamo prima possiamo andare su prima, sì. Fai un quarto, poi saliamo. Ah, sì, un quarto. Sì, perfetto. Aggiungi su, che vuol dire che abbiamo detto prima. Va bene, allora continuiamo, chiedo scusa. Rotelli, tu non hai altro da chiarito questo che era importante per evitare. No, volevo domandare, è possibile sapere chi per esempio in pianura possedeva le terre migliori giocando sulla sfasatura tra il perticato e lo scudato in percentuale? Non so, la nobiltà ha il 20% del perticato e ha il 30% dello scudato. L'avete previsto? Certo. Io ho detto che quando ho letto i quesiti, ho detto che i dati li ho sempre su queste colonne, quindi superficie e valore capitale. Totali, i numeri e percentuali. Poi volevo fare un'altra domanda, ho capito male di certo, ma mi sembra di aver capito che l'azienda la si fa coincidere con la ditta. No. Ieri, anzi, io ho insistito su questo punto qui, che la ditta, la partita, lei ha detto, la partita non coincide con la ditta. No, la ditta non coincide con l'azienda. La ditta non coincide con l'azienda, certamente. Certo. Certo. No, io ero più preoccupato dell'altra cosa, che la partita non coincide con la ditta, insomma. Che noi non abbiamo potuto creare la ditta, abbiamo le partite soltanto. Che le ditte presupponevano la possibilità di mettere in testa del soldi. Il fatto di non averlo potuto riunire anche certe tabelle che avete detto, non so, la nobiltà, il 30, ma si riferisce alle partite, insomma. Sì, ma anche le superfici però. Sì. E anche i valori, quindi io sono in grado. Il gruppo sociale come tale è chiaro, possiede quella cosa lì e non altro. Sì, però per il numero delle partite, questo. Se ci fosse le ditte, cioè cambio di valore. Per cui sì, una certa puntuazione, per cui si potrebbe vedere proprio la sfasatura tra il numero delle ditte e la superficie posseduta. Ecco. Senza dubbio. Potrebbe precisarsi. Senza dubbio. Ma l'impossibilità è manifesta, diciamo, non è superabile. Probabilmente è manifesta nei diversi, negli altri, insomma, ma per le grandi casate nobiliari forse ci si può arrivare con un supplemento di indagine. Con un supplemento di indagine? Attraverso la nobiltà, per esempio i registri, ecco. No, è possibile tirar fuori, cosa che ci abbiamo, è possibile tirar fuori, come dire, certe famiglie, insomma, ecco. Dopo però c'è tutta un'articolazione di nobiltà minore, di donne, se fossero tutti i tributi economici non ci sarebbe problema, perché c'è una miriade di altri. No, presuppongo un'indagine storica, e la stessa è per gli enti ecclesiastici, non dovrebbe essere. No, difatti il grado di difficoltà è decrescente partendo dai piccoli gruppi, non so, i seminari sono individuali, le abbazie sono tutte individuabili, insomma, anche no? Conventi e monasteri. Forse il grado maggiore di difficoltà è per gli altri, perché i nomi molto spesso si ripetono. Si diceva ieri, quando uno ha 20 Luigi Brabella, cosa fa? Beh, ma gli altri quando sono importanti si distinguono, poi ci sono quelli che servono. Sono diversi, sono migliaia e migliaia di persone. Secondo me non vale neanche poi la pena di andare a perdere degli anni, uno crea una categoria di borghesi, sì, proprietà borghese. A un certo punto, ma accettare anche un margine di... Sì, ma no, appunto, cioè solo per due categorie ci si può, per i nobili e gli enti ecclesiastici forse ci si può. Rotelli ha chiesto ancora, non ho visto. Allora, c'è un altro questo problema, vorrei dire alcune cose. È chiaro che non si può risolvere i problemi dei classi sociali attraverso la classificazione, l'allegamento, perché il problema è proprio lì. Cioè, il problema nasce nel momento in cui noi diciamo chi è un nobile, cosa è un nobile, chi è un borghese, un terzo sociale, così. Io sono ancora sotto così la ricordo della recensione molto bella che Brengo ci fece e che secondo me aveva ragione. Cioè la risposta di Poesini che è molto debole. Cosa diceva Brengo? Brengo diceva, come fate voi a chiamare borghesi tutti quelli che non sono nobili? Fa parte questa cosa, mi toccava poco perché io per puro caso avevo scritto altri, non era proprio di fatto. Io scrivo altri, sia però ben chiaro. Mi toglie che poi questa è un escamotage, aveva ragione Brengo. In realtà non si può pretendere di fare una scelta a priori e poi giustificarla. Cioè, in realtà il problema delle aggregazioni è un problema di comodità statistica, ma che lascia intoccato assolutamente il problema del carico sociale. L'esempio è venuto anche oggi su quelli ecclesiastici. Non lo si chiama interesse per sapere se l'ecclesiastico è un nobile deviato sulla Chiesa o è un contadino che ce l'ha fatta a farsi prendere. No, il problema è un altro, cioè è il problema del meccanismo che la struttura familiare usa per dirmi sui problemi, nel senso che se la famiglia intende suddividere i propri terreni, dicendo lasciamo il maschio primo, il maschio della terra, diamo la femmina un pezzo di terra e la mettiamo in convento, a un'altra diamo la dote e la sposiamo, il terzo lo facciamo prete perché non rompa le scatole, e a questo punto abbiamo, ma allora il problema non lo risolviamo mai a livello di classe, lo risolviamo a problemi di studi familiari, e c'è un problema, proprio un altro tipo di ricerca, struttura familiare in Lombardia, nella montagna, che poi cambia, poi no, la montagna, nella pianura, dove sia, e a questo punto abbiamo la prima risposta, cioè gli ecclesiastici sono esattamente, rispondono a un problema, al problema di come la famiglia fa la sua politica di difendere familiare. Il problema è analogo anche per le culture, perché l'altezza è una cosa molto bella, no? Ed è molto giusta, infatti vengono fuori cose molto importanti, cioè come attraverso l'altezza abbiamo la direzione di culture, di visioni di grandi piccole aziende, equità e così via. E però, ecco, supponiamo una comunità di Fondovalle, la quale ha il paese attorno ai 200 metri e poi dicono sulla sua terra a finire fino sulle Alpi. A questo punto è tutta l'economia unificata, cioè l'economia va in su e quindi la disgregazione è intensificata. E quindi il problema, noi non possiamo attraverso le classi definire questa economia. L'economia bisogna definire appunto a parte, cioè un problema di uno studio dell'economia montana, di fondovalle e così via, che va a fare in parte. Quindi, ripeto, la classe non può mai risolvere a priori i nostri problemi di aggregazione e disgregazione. La classe è una comodità per risolvere questi problemi generali, cioè per avere un quadro generale della struttura. Ecco, per cui il problema nasce lì. Cioè il problema nasce da questa ricerca di fare un tipo di ricerche che sono ricerche monografiche, che sono tutte quelle che risolvono il problema. No, questo è importante. Resta riconfermato però che consapevoli di tutte queste cose qui conviene comunque, avendo rispetto della fonte, della natura dei dati che essa dà, che non può non dare, di quelli che non può non dare, che si ricavino certi elementi che poi costituiscono uno strumento per ulteriori approfondimenti. Quello che tu hai detto ieri, difatti, per i limiti, questo è venuto fuori, una comunità già è diverso per zone come dire molto omogenee, insomma, no? Tutta la pianura per esempio non crea, crea un problema, il problema si crea con la collina, nella struttura tra la pianura e l'altopiano e collina, collina e montagna. Però da capo è una prima grossolana classificazione dei terreni, siamo tutti consapevoli che ci sono, anzi la comunità molto spesso era invallata, quindi ci sono i terreni di pianura e poi ci sono i terreni che salgono. E dal punto di vista catastale non c'è altro da fare che prendere e considerarla fittiziamente, falsamente come comunità, insomma, no? E non si può fare altro, solo la disaggregazione all'interno della singola comunità. L'altro passo è questo, non, di intermedio non c'è niente, no? O ci si accontenta di questo, oppure si va, allora si studiano 10 comunità e si riclassifica tutto sulla base dell'effettiva posizione, insomma, che poi ha bisogno di un confronto continuo, perché per catastri di questo periodo qui tu cosa devi fare? Tu devi sperare di ritrovare le partite che erano a una certa altimetria all'interno di una comunità e ritrovarle adesso, cosa che è discutibile, insomma, perché ti è andato insieme tutto. Io trovo per esempio che una comunità è formata da 50 partite all'inizio del Settecento, come stabilisco l'altimetria specifica di queste cose qui? E che sulla fonte non per dire. Ma perfetto, io spero che sarò certamente in pensione quel giorno che uno. Andare al contratto di compravendita, se lì dentro c'è una sempre che ci sia una descrizione, perché io non so se negli altri compravendita quando si vende. Può fare tutto al mondo. No, ma qualche là, cioè, io faccio nell'atto di compravendita c'è un terreno e a quest'altimetro, non lo so, sai. Io ho dei dubbi che ci sia questo dato, che quando uno vede un terreno metteva anche a capire la piena. Poi dipende se è stato oggetto di una contrattazione. Questo è l'altro lì, della presupposto che sia. Sì. Certo. Ma, prego. No, ma io vorrei, proprio, mi sembra che questo discorso che ha fatto Battaglia, che è molto validissimo, ponga proprio nei termini esatti quello che lui ha giustamente insistito ieri, Sergio. Il lavoro che hanno fatto adesso è un lavoro di predisposizione di una base di ricerca, non è una conclusione di ricerca, è l'offrirci uno strumento di lavoro per condurre delle ricerche economiche, storiche, sociali di ricerca. Quindi è inutile stare qui per arrampicarci sui discorsi. No, l'unica cosa è questa, su cui io insisto ancora di più. Vabbè, pubblicare tutti i dati al livello più analitico possibile. Perché appunto per dare la possibilità domani di ricostruire in sede storica, questo è fondamentale. Certo. Ecco, cioè io vorrei dire questo, avete fatto un lavoro magnifico, mi ha ammirato un lavoro. Sarebbe sciocco a mio modo di vedere che dopo tutta la fatica che voi avete fatto non ci deste la possibilità di fare. Certo che oggi tanti storici dell'economia si presumo di risolvere il problema storico facendo un'analisi statistica così, e bene fa, chiuso. Fanno un'analisi statistica, questo lo fa Francesco Brambilla, l'analisi statistica, lo fanno le storico lui. Insomma, voglio dire, o si fa l'analisi statistica, si fanno gli indici di dispersione, gli indici di... Ma cosa vuol dire quando io ho gli indici di dispersione, gli indici di regressione e vi dicendo se io non faccio un discorso storico? Ora per il discorso storico occorre proprio questo, che lo diceva come un momentino fa, non spetta a noi, noi offriamo del materiale. Se poi io devo risalire agli atti notarili per vedere se c'è stata compravendita, se non c'è stata compravendita, se c'è stata ridistribuzione e così via, questo spetta allo storico. Aspetta, a meno che io voglia fare lo storico economico tante volte di oggi, che fa un'analisi puramente statistica e creda di aver fatto per il storico. Niente, allora. Questo errore ma quindi dobbiamo. Ecco perché però pubblicandolo a livello estremamente analitico tutto il lavoro che l'avete fatto. Sì, perché altrimenti non si riesce poi a fare aggiungere l'ora alla cosa. Scusate, dico, aiutiamoci, io sono dispostissimo, adesso se volete ne parlo con la Bocconi, dico troviamo dei soldi, creiamo il CNR, non so, io dico che è proprio veramente sapevo. Dopo aver lavorato come dei Cirenei per tanto tempo, ci sottraete del pane. Sì, si potrebbe trovare anche una soluzione di questo tipo qui che con il dottor Paganini già ha una sua soluzione, cioè mettere a disposizione degli studiosi certi tipi di rilevazione proprio molto molto disagreati. Cioè, io pubblico, Bianchi pubblica e Cuba pubblica, ma soprattutto Bianchi ed io, sulla base così, sulla nostra responsabilità, interpretando. Non è possibile evidentemente fare una pubblicazione in cui dovendo tirare fuori i risultati più generali, insomma, no, più significativi, si vada oltre un certo volume, insomma, che sono lettore, ammazza. E poi o si pensa a un'appendice, ecco, come dici tu, proprio dando un momento concreto, perché poi siamo abituati a vedere, o si pensa a un'appendice veramente, rilevante. Oppure si dice che questo materiale resta a disposizione. Ecco, chi lo vuole. Lo so, ma diciamo una cosa che io non ho. Usano direttamente. Friedman dice a Chicago c'è tutto. Gershenkorn dice a Harvard c'è tutto, venite a vedere, insomma, dico così, no? No, vorrei anch'io cadere in questo. Qui però pubblicare, vabbè, comunque io accolgo in pieno, siamo qui per questo. Certo. A volte ti continui a viaggiare e riesci a trovare i soldi sempre per viaggiare. Invece di viaggiare ti dai anche Zaninelli. No, di sopra ti dai Zaninelli. Io non pensavo a tanto, insomma, se fosse possibile. Buono questa. Prego, ci sono altre osservazioni?